Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Signori e signori, benvenuti a questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica. Ovviamente vediamo immediatamente i riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it. Ci trovate anche su Facebook come Dietrologia Videoludica, ovviamente, e su Twitter cercando @dietrologiavideoludo. Ma abbiamo anche chiaramente la posta elettronica, che nessuno finora insomma ha mai violato, è vergine come non facciamo paragoni, dietrologiavideoludica@gmail.com. A condurre con me questo episodio, come al solito, c'è il mio fratello di spalla, quello che facciamo spalla a spalla, così quando si gira uno, si addormenta uno, si sveglia l'altro, il nostro carissimo Stefano Biggio. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie della partecipazione. Grazie. Grazie di esistere, esatto. Anche. Non essere troppo entusiasta. No, stavo cercando di avere un tono serio, ma che dura circa 8 secondi e poi finisce. Ricordiamo agli ascoltatori che sono le vediamo un po' che ore sono, le 10:25. Sono le 22:25 e Stefano è appena tornato dal lavoro, che non è soltanto che ha lavorato fino a tardi, ma che è la prima volta in vita sua in generale, insomma, quindi non c'è abituato. Sempre quei contributi da quando ho 8 anni, pago i contributi, cosa non si sa perché cosa, però va però bene. Li pago comunque. Come vi abbiamo spiegato nelle puntate precedenti, abbiamo iniziato una serie di episodi facendo un turnover per rispettare il team abbastanza ampio, grazie a Dio, abbastanza ampio di questa trasmissione. Quindi questo episodio, gli ospiti, i compagni, che poi in realtà ormai non sono più neanche ospiti, sono solo due, quindi Luigi Marrone. Ciao a tutti. Ciao Luigi, tutto a posto? Tu pure sei stanco? Ma no, sto bene, sono pronto per imbattermi in questa nuova puntata. E invece un riposatissimo Saso. Ciao Giuseppe. Buon salve a tutti. Tutto a posto? Sì, poi c'è anche qua la bottigliona di Coca-Cola, così la caffeina non mi manca. Allora, avete qualche notizia, qualche informazione relativa ai vostri siti che volete rendere partecipo insomma al resto del mondo, pure te Stefano con Retrocast, se qualcosa è successo? No, prometto che però dovremmo registrare, anzi ne approfitto per dirlo, fra un po' dovremmo registrare forse la puntata di aprile, la registreremo come al solito il 29, la pubblicheremo il 1 maggio per perché è festa. Così, ma perché lo sai, sono ragazzi. Ricordiamo che l'episodio precedente di Dietrologia Videoludica, quella dedicata a Lucas, che tra l'altro sono orgoglioso di dirvi insomma che non solo ha avuto insomma un certo numero cospicuo di download, ma è anche un episodio che è piaciuto veramente tanto, quindi a livello di critica veramente approvazioni e applausi a gogo, e questo ci fa veramente piacere. È stato condiviso ovviamente, perché anche se ci siamo scordati di dirlo, era una sorta di crossover con Retrocast. Quindi io non l'ho messo nel feed, ma come dire, l'ho integrato in un post come se fosse uno dei nostri episodi, quindi non lo, chi ascolta Retrocast non lo riceverà automaticamente, ma sono tutti riferimenti per scaricarlo e così via, quindi anche perché perfetto. Così sembrava un po' tu troppo. Peppe, invece novità, hai giocato cose recenti, so che ti sei anche entusiasmato. Sì, mi ha colpito effettivamente tanto Bioshock Infinite, dopo averlo terminato l'ho già scritto sul mio blog, lo ripeto pure qua per gli ascoltatori di Dietrologia. Ken Levine è lo Steve Jobs dei videogiochi. Cioè, attenzione, pochi attenzione. Cazzi, ragazzi. Quindi, e penso anche, ve lo anticipo sin da ora, che scriverò un articolo, insomma, nel sito di Dietrologia proprio su Bioshock Infinite. Anche perché si può ricondurre ai miei precedenti articoli, dove affrontavo le tematiche della religione e della dissonanza ludonarrativa. E di Dietrologia, questo Dietrologia. Gioco è molto pregno, scusami. Ah, scusa, no, scusa, no, posso fare una domanda a Giuseppe un attimo? Sì. Su Bioshock, ne approfitto da giocatore, sì, in questo caso. Io che ho giocato all'uno, cioè io che i Bioshock li ho giochicchiati, l'uno abbastanza, il due è provato così. Il 2 per me, diciamo, è un capitolo poco. Ok. A parte questo, molti mi hanno, sì, detto: guarda, anche se non sei il fanboy di Bioshock, ci puoi giocare perché non è proprio... Sì. Cioè, non devi conoscere la storia a memoria, ecco, non è... No, no, diciamo che da Bioshock 1 è in un certo senso slegato, innanzitutto perché è un prequel, nel senso che temporalmente si svolge prima. Ci sono dei collegamenti, ma non... Cioè, niente, per uno che il gioco lo conosce, che ci ha giocato, esatto, ma non approfonditamente... È un plus, è okay, un plus. Beh, allora... Cioè, comunque... specialmente alla fine, diciamo, magari un po' potresti anche sorridere per alcuni, okay, camei. Però, fondamentalmente, chi è che non ha giocato a Bioshock 1 e 2... Esatto, esatto. Quindi comunque lo consigli. Sì, decisamente. Sì, secondo me, diciamo, ragazzi, se dovete fare scelta perché magari non potete giocare a tutto quest'anno, Bioshock Infinite comunque è il gioco numero uno che dovrete giocare, perché altrimenti è un po' come se non aveste giocato a nient'altro quest'anno. Addirittura, bene. Sì, sì. Ok, okay. E invece Luigi, che insomma prima nel fuori onda stavamo parlando, è uno che con i videogiochi è sempre al passo coi tempi, ha giocato a Quake, giusto? Sì. Quake 1? La beta di Quake. Ok, quindi sì, non era neanche la versione definitiva. Ma magari ne parliamo sul Retrocast a questo punto. Scherzi a parte, dicevo, tu che novità c'hai nell'ultimo periodo? No, niente, io non ho giocato molto sui giochi indie, quindi fondamentalmente mi sono buttato dentro le avventure AAA come un Bioshock Infinite, e sto recuperando cose che ho preso tempo addietro a cifre irrisorie. Che ne so, Portal 2, ho giocato bellissimo, in single player e una parte in co-op con mio fratello, e ho recuperato piccole chicche tipo Red Faction Armageddon, che ne parlavamo prima, tutti hanno snobbato eccetera, ma a me la dinamica di istruzione e ricostruzione con questo fantastico motore chiamato Geomod 2.0 della defunta THQ, tra l'altro, ormai ma ufficialmente sepolta. Defunta, io mi sono perso. Sì, ufficialmente smantellata. Ah, sì, facciamo una puntata speciale. Funeral for a Friend 2. No, io pensavo che sapevo, ero fermo al fatto che loro stessero in gravi difficoltà economiche e dovessero pubblicare solo alcuni giochi. Hanno dichiarato bancarotta quando fu un mese fa. Ma lo sono perso un mese e mezzo fa. Cacchio. Speravo di vedere il nuovo aiuto. Un gioco che mi era piaciuto un casino, quello ambientato in Nord Corea, visto anche il periodo. Bello. Come si chiama? No, quando i nordcoreani invadono l'America. Di cui Homefront, tra l'altro, di cui ho letto anche il libro di multiplayer, ho fatto recensioni. Quello di mi pare che se lo sono acquistato. Se lo sono comprati, va bene lo stesso. Sì, ti ho detto, i resti se lo sono divisi. C'è stata l'asta, se ricordo. Ah, bene. Allora, nessun problema, prego. Io purtroppo, invece, proprio perché vorrei sapere quando esce il mitico gioco di ruolo di South Park. Perché quello era uno dei giochi che ormai aspettavo, esatto. È vero, anche quello. E vabbè, dai, da qualche parte uscirà. Vabbè, Luigi, quindi stai concluso? Stavi dicendo? Sì, va bene così. Ok, va bene così. Allora, io invece, prima di iniziare a entrare proprio nel tema della puntata, una cosa molto molto breve, salutiamo, insomma, a nome mio, a nome di tutto quanto lo staff e dei partecipanti, Cesare Giraldi, che è un giovanissimo ragazzo, molto giovane, che ci ha mandato una mail tempo fa con degli articoli dentro, visto che sapeva che noi avevamo richiesto se c'erano persone che volevano partecipare e collaborare al sito. Gli articoli ci sono piaciuti, quindi da oggi, tra l'altro, che è uscito già il suo primo articolo sulla massificazione dei videogiochi. Cesare è parte integrante del nostro staff, quindi salutiamolo, facciamo, diamo il benvenuto a Cesare. Detto diamo questo, a Cesare quel che di Cesare. Ave Cesare. Ave Cesare, diamo a Cesare quello che ha detto, ci è abituatissimo. Ascolta, ma questi cose, giochi quindi massificati mi ricordano il nome di un altro famoso videogioco. Che ricorda un po'... Non era ancora stato detto, quindi tutto a posto, possiamo andare oltre. Abbiamo durante il tempo tutta la puntata, esatto, per dire, per dire altro. Allora, entriamo nel vivo della trasmissione. Ok Stefano, sì. Qui allora diciamo una cosa, l'autore di questa puntata, come l'autore della scorsa puntata su Lucas è stato Alex Raccuglia, l'autore di questa puntata è Luigi Marrone, perché abbiamo deciso che ogni tanto qualcuno si prende il compito di proporre un tema e di costruire poi anche la struttura della scaletta, e di Luigi Marrone è anche l'introduzione che, come Luigi Marrone ha dato nelle istruzioni, questa introduzione va recitata con un certo, ecco, pathos, sì. Ed è una sorta di prova del 9, cioè nel senso che tutto quello che tu hai positivamente guadagnato fino ad oggi lo puoi sbragare completamente con questa lettura. Quindi io ti prenditi due secondi, sì. Mettiamo apposita musicazione e vai. Perfetto, io inizio dicendo due parole: Madonna buona, perché sarà davvero difficile riuscire a leggerla senza impappinarmi, è quello il problema, a causa dei termini, come dire, aulici, esatto, contenuti all'interno dell'intro. Però ci proveremo, dai ragazzi, siete buoni, appunto, considerate la difficoltà della cosa, non è lunghissima, ma è breve, ma intensa, mettiamola così. Comunque, inizio a leggere. Vediamo. Quindi, la quarta gioco stazione della morte. PlayStation 4, o come dire, un fantasma. A tutt'oggi, immersa nelle unte nebbie fumiganti del futuro, non ancora ne scorgiamo la forma, il colore, il sapore, o per il piacere di alcune morganitiche nonne, Super Mario, l'odore. Cos'altro ci sarebbe da aggiungere, quindi, su PlayStation 4? Risposta: tutto ciò che ancora non è stato detto, vale a dire tutto. A partire dal nome, certo, perché potrebbe anche non chiamarsi così alla fine, PlayStation 4. Un brutto colpo di coda, all'ultimo, proprio come Nintendo Wii, così battezzato al mondo solo quando l'accrocchio è stato svelato. Tutta colpa della tetrafobia, di una superstizione dell'Asia orientale. Il numero 4 in Giappone suona infatti come la parola morte. E chi diavolo vorrebbe mai in casa una giocostazione della morte? Ma qui, su di trilogia videoludica, non c'è fantasma che tenga. Qualunque sia la forma, qualunque il suono, lo spazio, il freddo, il dolore o la paura, un fantasma, per spaventare, chiede solo di essere immaginato. Immaginiamo il fantasma, quindi. Immaginiamo PlayStation 4. Immagina, puoi. Perché immaginare è sempre stato bello. Perché immaginare è sempre stato più bello della realtà nuda, compiuta, svelata. Continuiamo dunque a immaginare PlayStation 4 così come adesso, oggi, incompiuta. Perché, come dicono i filosofi, ogni incompiutezza è infinita. Finito. Guarda, io lascio la parola prima a lui. Ecco, vero. Il redattore. Allora, diciamo che ho avuto un brivido nel sentirmi leggere per la prima volta, perché nessuno ha mai letto quello che ho scritto così. E quindi ti ringrazio, mi è piaciuto. Faccio una piccola correzione, perché hai letto la parola morganatiche come morganitiche. Lo so. Che non credo esista morganitico, credo. Però la passiamo. Insomma, vabbè, era morganatica, ma non volevo ripetermi come ho fatto in seguito. Però due errori. Va bene. Sì, ma sotto, guarda, mi è piaciuto. Diciamo che l'anno non te lo rifai. Ecco. Ah, grande. No, non so rifare, non so rifare. Ok, quindi voto a questo punto. Però il voto lo devi dare. Il voto. Va, voto ti do un 8 meno, dai. quel Morgan Giuseppe. Io ero pure orientato all'8, visto che più che altro mi ero perso effettivamente il riferimento a Morgan, ma ho notato subito l'inciampo della ripetizione quando c'è stato, sì, alla fine, sì, immaginiamo. Comunque ti do un 8 invece pieno, dai. Forte. Io ti do un 7 no, e mezzo. Ecco, ma è arrivato. Per abbassare no, la media. Ah, merda. Dai, cazzo, sono contento, è una soddisfazione. Io sai che non sono di braccia larghe, insomma. No, no. Ti ho dato anche voti più alti, ricordi? Sì, è vero. L'altra volta però, mi avevi dato un voto però, più alto. Quindi, insomma, a me non mi puoi contestare la mia generosità. Diciamo che in questo specifico caso la difficoltà era e quindi un po'... Purtroppo l'hai sentita, però ciononostante ti sei comportato grandemente. Beh, allora, si parla di PlayStation 4, quindi a sto punto iniziamo nel vivo della trasmissione. Io vi ricordo soltanto che abbiamo provato tempo fa a fare una sorta di diretta su PlayStation 4, proprio quando ci fu il primo annuncio in diretta, eravamo io, Luigi, Stefano, non mi ricordo chi altro c'era, e Marco. Poi vabbè, in realtà un po' l'inesperienza, un po' tante cose, alla fine abbiamo non ce l'abbiamo fatta a mantenere un ritmo altissimo, soprattutto perché o seguivamo la diretta o seguivamo quello che dicevamo noi, quindi è stato un po' particolare, però è stato interessante, ci hanno seguito, insomma abbiamo potuto esprimere anche le nostre opinioni. Io partirei prima di tutti i punti della scaletta, che ovviamente poi li lascio a Stefano che ovviamente con la sua solita maestria condurrà il resto dell'episodio, mentre io m'appisolo. Ricordiamoci quello che abbiamo detto sostanzialmente la prima in quell'episodio lì, che Sony si è presentata con quello che abbiamo detto oggi anche fra di noi, con un fantasma, cioè si è presentato questa cosa un po' aulica, un po' c'è, un po' non c'è, un po' l'hardware è quello ma nessuno l'ha visto e via dicendo. Però la cosa che ci aveva sorpreso in maniera particolare in quel frangente era il fatto che Sony si era presentata con una certa prosopopea, quasi una certa arroganza, dicendo: ragazzi, noi vi abbiamo studiato, abbiamo capito tutto e non siete più voi a dirci quello che volete voi, ma siamo noi a dirvi quello che volete, perché lo sappiamo meglio di voi. Questo è un po' che poi in realtà è la base del marketing moderno, cioè nel senso non è tanto tirare fuori servizi che siano funzionali e utili, è convincere la gente che quei servizi servono, no, diciamo così. Non so se siete d'accordo su questa specie di primo incipit, poi parliamo di tutto il resto. Stefano, partito. No, anch'io, come dire, non apprezzo molto la cosa, ma mi rendo conto che se le hanno dette vuol dire che c'è sicuramente qualche reparto marketing che ha studiato le cose da dire, come dirle e a chi rivolgersi in questo caso per quella presentazione. Non a caso è stata fatta in America e non in Giappone, nonostante la Sony sia giapponese, nonostante insomma abbia un come si dice, un heritage giapponese. Quindi più o meno sì, cioè nel senso sono abbastanza d'accordo con te, la cosa non mi è piaciuta molto, soprattutto non ho trovato la presentazione estremamente galvanizzante, ecco, mettiamola così. Cioè mi sarei aspettato qualcosina di più da una next gen che è da tanti anni che viene preparata, ecco, non è che l'aspettiamo, sì, più cioè che non è che le console che ci sono adesso sono uscite 2 o 3 anni fa, ecco, cioè, insomma mi sarei aspettato forse qualcosina in più, ma magari è solo dovuto al fatto che hanno bisogno di più tempo per realizzarlo, ecco, perché come il Kinect, che magari quando è uscita la prima l'Xbox 360 non era neanche immaginabile, adesso è una cosa scontata quasi. Ci è voluto il suo tempo prima che realizzassero una cosa così, quindi insomma mi trovo un po' in bilico da vecchio sonaro storico, ecco, grande Sony fanboy, grande amante del Giappone, quindi. Anche se poi le cose viste, insomma, alcune cose saranno abbastanza particolari. Ma rimaniamo in questo primo aspetto. Giuseppe, che non era presente quella sera in diretta con noi, che ne pensi di questo atteggiamento che ci hanno adesso in generale le grandi company e nello specifico Sony quella sera, del fatto che Jack, noi ti presentiamo quello che tu vuoi? L'atteggiamento di marketing era ovviamente evidente, perché era una campagna fondamentalmente rivolta a giornalisti, a tutti i giornalisti presenti accorsi all'evento fondamentalmente. Non era tipo una conferenza per giocatori o quantomeno per sviluppatori, quindi ovviamente dovevano fare vedere un po' quanto era figa la console di prossima uscita. Per me, diciamo, Però anche là non ho notato, e vuoi che infatti è il motivo per cui comunque è stata per me almeno una conferenza abbastanza soporifera, non so, quei momenti che magari io posso, che so, vedere in un keynote della buonanima di Steve Jobs, tanto per ritirarlo nuovamente in ballo. Cioè, per me è stato l'esatto contrario. Cioè, hanno comunque mostrato, sciorinato all'inizio anche un po' di dati senza fare vedere il prodotto, che è una delle cose che fondamentalmente entro i primi 20 minuti di un qualunque keynote Apple insomma subito ti sbandiano davanti. No, hanno al limite si sono solo limitati a mostrare, come abbiamo già detto, il nuovo controller DualShock 4, però insomma della console in sé. E poi ovviamente anche per esempio nelle conferenze Apple, comunque il software che solitamente presentavano per i loro dispositivi era del software che praticamente al termine del keynote già era quasi disponibile, comunque lì per lì erano versioni praticamente definitive. Qua, come sempre siamo abituati nelle ultime generazioni, sono fondamentalmente delle tech demo, quindi si è visto abbastanza poco di quello che effettivamente poi entro fine anno si spera potremo effettivamente vedere nel concreto, ecco. Questa, diciamo, è stata la mia impressione. Insomma, alla fine ci siamo rimasti un po' tutti molto, molto fumoso e soporifero. Sì, è sì. Come quando giocavi a Metal Gear e usciva fuori il fumetto col punto interrogativo, uguale. Cioè, questa è l'immagine di tutti noi. Cos'è stato? Va bene. È sembrato qualcuno. Stefano, dimmi. Vai. Questo nome metti caotica. Prendi le redini della. Allora, introduco. Ma non hai chiesto a Luigi cosa ne pensava della conferenza, però. Ah, cazzarola. Hai ragione, scusa Luigi, sto diventando vecchio. Sì, tra l'altro. Ma no, in realtà vabbè, che noi con lui già abbiamo parlato di questo aspetto, però vabbè, è giusto che ribadisca. Infatti posso saltare il suo problema. Il salto veloce, mi interessa concentrarci sui punti della serata. Dico soltanto che è stata una conferenza accomodante, nel senso oggi si punta molto sull'aspetto del far sentire compreso l'utente per abbracciare più quanti possibili futuri acquirenti, e quindi era una conferenza accomodante da tutti i punti di vista. Mi viene questo termine, accomodante. C'è questo, c'è quest'altro, l'ho fatta per gli sviluppatori, è stata fatta anche per voi, quindi amatela. Questo era il grosso puntello su cui hanno giocato per fare questo marketing nazional popolare, planetario popolare. Sì. Bene. Planetar popolare, interessante. Planetar popolare, sì. Allora, quindi io passo, dopo aver sentito Luigi, al primo punto, che per quanto riguarda la PlayStation 4 ovviamente, si parla di un possibile gadget in futuro, in questo caso degli occhiali per la realtà aumentata utilizzabili con PS4, simili ai Google Glass presentati non molto tempo fa. La cosa qui in questo caso vi interessa? Cioè, in proporzione, personalmente ad esempio la trovo, se sfruttata bene, una cosa molto interessante, idem come quella dei Google Glass, sempre che non diventi un oggetto estremamente superfluo oppure un oggetto troppo poco sfruttato, mettiamola così, ecco, perché Stefano, facciamo una premessa, sì. Nel senso che è inutile, visto che se ne è parlato, se ne è scritto, cioè nel senso, noi tutta la parte magari l'hardware, che cos'è questa PlayStation, che cosa, cioè magari ne parleremo in seguito, però cioè inutile fare un intro, una scheda della PlayStation. Entriamo subito sul vivo degli argomenti che possono essere sì, più o meno interessanti, appunto, No, volevo specificare sta cosa perché noi già partimo con l'occhiale, invece sì, partiamo con gli occhiali così. Sì. Ma guardi, mi volevo introdurre, certo. Ma devi leggi la scaletta tu ogni punto? Beh, sì, sì, cioè, come sempre tutto non... Okay. Dai, poi magari mi riallaccio, vai. Ok, no, nel senso adesso questa la tagliamo. c'è un ordine da seguire nella scaletta, meglio, hai inserito un ordine particolare nella scaletta? Sì, ma guarda, non è che c'è un ordine particolare, però siccome questa è una puntata sulla PlayStation 4, l'ho immaginata molto creativa, molto cioè saltiamo di palo in frasca, però diamo informazioni sostanziali, perché non dobbiamo fare un resoconto come se avessimo visto una conferenza. Quindi parliamone in maniera creativa, saltando di palo in frasca. Io ho considerazioni per ogni punto, okay. Immagino anche voi. Sì, no, no, quella è semplicemente per... No, io non su tutti i punti, perché c'è alcune cose che per la mia visione estremamente tradizionalista non me ne può fregare di meno, però questa è la mia, è sì. la mia opinione, quindi poi dopo invece sono d'accordo proprio su come è strutturata questa scaletta. Mi piace proprio il concetto proprio di come è stata improntata questa puntata, quindi spompiamola, via, distruggiamo questa puntata. Va bene, no, io lo seguo più che altro per ordine, cioè per non incasinarci, però vai veloce, okay, buttati. Vai. No, niente, appena fatto. Quindi direi di iniziare. Simone, tu no, cosa ne pensi? Te l'ho detto, di questo è uno dei quei punti. Ok, allora ripeto, io mi allaccio subito a quello che dici. Credevo che leggessi la scaletta, nel senso che come l'avevo scritta. Ah, ma quindi per rileggo la scaletta. No, allora stop, allora, riparti. Okay, okay, rileggo la scaletta. Dimmi. Ok. Quindi il primo punto: in futuro Sony introdurrà degli occhialini di realtà aumentata per PS4. Intanto ho depositato un brevetto, forse per competere con Google Glass. In ambito di realtà virtuale, videoludica, comunque, sarebbe una prospettiva interessante. Parliamone. Ok, Ergo. Io ho riportato un sito. Praticamente ho letto quella notizia su Spazio Games, sì. Secondo TechCrunch, praticamente.com, Sony vuole competere col mercato degli occhiali tecnologici stile Google Glass. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno depositato un brevetto per un dispositivo che è di indossare a mo' di occhiali. Quindi potrebbe essere benissimo qualsiasi altro supporto, a mo' di occhiali, ma può essere anche, non so, una fascetta dietro la testa che finisce con delle lenti, oppure una sorta di qualsiasi tipo di cosa possa venire in mente, perché non ne sono proprio occhiali come Google Glass, e che ha dei display informativi all'altezza degli occhi. Perché mi è sembrata interessante questa notizia e di cui vorrei parlare? Perché io mi ero lamentato del fatto che durante la conferenza Sony parlava di un nuovo modo di giocare, ma non aveva per nulla mostrato nuove interfacce di gioco, non ha fatto assolutamente niente. E sai, dire che rinnoverò il mercato del videogioco con un nuovo modo di giocare e non presentare nulla di sostanzialmente diverso dal punto di vista delle interfacce sembrava un po' limitante. Con questa notizia invece due sono i casi, ho pensato io: o Sony, megalomane com'è, vuole acquistare anche una fetta di mercato tipica di quella che andrà a coprire Google Glass, e quindi ok, sarò competitor, anch'io deposito un brevetto in modo da tagliare la testa al toro, oppure ci sarà veramente qualcosa che verrà in futuro associata a PlayStation 4, alla sua sensor bar e via cantando, che fa ben sperare affinché ci sia un nuovo modo davvero di poter intendere il videogioco o svilupparne secondo queste nuove premesse tecnologiche. E quindi volevo soltanto puntualizzare che c'erano questo brevetto, che i due schermi sono mobili, così sembra, c'è la presenza sia delle cuffie praticamente che della fotocamera, quindi riguarda moltissimo l'aspetto proprio audiovisivo completo. E si attende di sapere che diavolo potrà farci con questi occhiali, che ripetiamo, il brevetto è stato depositato l'anno scorso, quindi è passato un po' di tempo, non è una cosa dell'ultimo momento. Sì, però teniamo in considerazione, cioè se vogliamo tenere in considerazione che questo brevetto e questi occhiali siano poi da riferirsi veramente al mercato, cioè videoludico, o se in realtà in generale vogliono entrare più in quell'aspetto relativo a Google Glass, che invece è un occhiale per la gestione della vita in generale, insomma, che c'ha a che fare relativamente poi, certo, con il videogioco, insomma. Certo. Ma sì, Simone, a te la cosa colpisce? Interessa? A me, io l'ho già detto prima, se stiamo parlando di videogiochi non me ne può fregare di meno, nel senso che non è quello che che mi aspetto, e soprattutto secondo me non sarà quello che mi farà cambiare l'esperienza del videogioco, perché allora a questo punto, visto e considerato che io vivo il videogioco così come vivo il cinema, anche se ovviamente con le dovute differenze, cioè nel senso come intrattenimento, narrazione, comunicazione visiva, linguaggio, no, in qualche maniera, allora a quel punto questo deve valere anche per il cinema, cioè nel senso, se stiamo trasformando i media in generale, allora vabbè, dovremmo fare un'attenta riflessione, prima o poi accadrà, o ti adeguerai a questo tipo di discorso oppure buonanotte al secchio. Se invece il discorso è strettamente legato al videogioco, io non riesco, fino a che non vedo, non riesco ancora, probabilmente per un limite mio, a vedere che tipo di ampliamento dell'esperienza che mi possa portare una cosa del genere. Quindi fondamentalmente a me, insomma, per ora messa così, mi interessa relativamente bene. Beh, come ampliamento di esperienza io magari immagino un utilizzo nei videogiochi al di fuori dal contesto casalingo, ad esempio, non lo so, una cosa, cioè mentre stai guidando, no vabbè, è una cosa circa, cioè una cosa che magari ti fornisca delle informazioni, una specie, una forma di pocket station o di memory card del Dreamcast estremamente avanzata, quindi che magari l'achievement lo fai raccogliendo una cartaccia da terra e buttandola nel cestino perché nel gioco c'è tale previsione, non lo so, adesso sto sparando la prima cosa che mi viene in mente ovviamente, però insomma una cosa che renda la realtà e il videogioco più interattive in tutti e due i sensi, in modo che tendano a convergere nello stesso punto, ipotizzo. Poi non so, Giuseppe, tu invece la vedi? Ma guarda, per me, premesso che però resta comunque un brevetto, quindi una cosa che appunto esiste solo presso un ufficio registrato, un concept, allo stato attuale sappiamo benissimo che fondamentalmente Sony come integrazione punta con integrazione con la sua nuova console punta fondamentalmente su tre cose: il DualShock 4, PS Vita e ovviamente tutti i vari dispositivi mobili che come Microsoft utilizzeranno la tecnologia Smart Glass fondamentalmente con delle companion app. Io in realtà la vedrei più come una risposta in realtà all'Oculus Rift, che di cui ne abbiamo anche già parlato, mi pare. Tempo fa sulle interfacce, cioè siccome ricordiamo che l'Oculus Rift allo stato attuale è fondamentalmente sono degli occhialini, ma per usarli come interfaccia per i giochi PC, sì, per i giochi per il computer sono solo uno schermo, sì, sono degli occhialoni, sì, sono solo diciamo degli occhialoni, sì, sì. E si parla ovviamente non di realtà aumentata ma più di una specie di realtà, di ritorno alla realtà virtuale fondamentalmente, però secondo me diciamo si sta parando ovviamente, perché Sony, l'abbiamo visto, deve cercare sempre comunque di controbattere alle risposte ovviamente di tutti gli altri competitor presentando una sua versione, no? E quindi secondo me fondamentalmente hanno messo questo brevetto perché comunque per dire che anche loro una cosa del genere l'hanno pensata. Ma come? Facciamo posso dire una cosa prima di Luigi, sì. Scusa Luigi, poi dopo lascio due riflessioni. Sì. Una è relativa al Google Glass che io ho avuto modo insomma di leggere tante cose e in realtà molta gente anche come approccio l'ha vista anche negativamente, ah ma che sono ste cazzate, oramai siamo connessi su qualsiasi cosa, in realtà secondo me l'aspetto che è stato sottovalutato di ausili come questo è non tanto il potenziamento della realtà per in condizioni normali, ma quanto ausili come questi possono essere utili per come posso dire, bypassare problematiche magari oggettive che possono essere chi ha problemi magari di vista o roba del genere, cioè nel senso noi abbiamo parlato dei videogiochi come accessibilità nella puntata scorsa, in realtà la realtà aumentata può essere uno strumento per ampliare proprio l'accessibilità al mondo, questa è un po' la cosa più affascinante di questi strumenti, tant'è che in lavorazione sono anche lenti a contatto. E già hanno fatto vedere una sorta di prototipi, alcune fotografie e roba del genere. Relativamente a Sony invece mi ha fatto pensare anche questa ultima riflessione di Giuseppe, Mi è venuto in mente una cosa che ha detto, mi ha detto Mario Morgan recentemente, parlavo con lui, e lui mi ha detto: secondo me Sony verrà presto acquisita da Samsung. E io dico: beh, ma in realtà Sony, cioè, nel senso, è un colosso enorme, insomma, è un pezzo di storia della tecnologia. E lui mi ha fatto riflettere dicendo: sì, ma tu oggi vedi qualcosa che è originariamente Sony, che sia prepotentemente Sony nelle case della gente, che può essere un televisore, che può essere un registratore, che può essere una PlayStation 4, a parte la PlayStation, no, nemmeno quella è Sony alla fine, tra l'altro. Vabbè, no, appunto, cioè, nel senso che una volta Sony era indice, no? Di tutta una serie di tecnologie di uso comune che ne hanno anche determinato praticamente anche la definizione, no? Come iPod può essere una sorta di definizione universale nata da Apple. E prima, scusami Simone, dell'iPod, Walkman era sinonimo, esatto, di Sony. Esatto, quello che stavamo dicendo, appunto. Quindi in realtà mi ha fatto riflettere questa cosa, cioè, nel senso che stiamo vedendo in questa nuova politica, di questa nuova campagna di presentazione, questa nuova campagna mediatica di Sony in generale, magari in questa nuova sua comunicazione, una sorta di buttiamola in caciara, tanto è il nostro canto del cigno. Beh, oddio. è una previsione molto azzardata. So che Sony non è che naviga in ottime acque. L'anno scorso non è stato esattamente roseo il loro bilancio. Risentono della crisi a livello planetario. Molte delle tecnologie che sviluppano sono derivative anche nell'ambito, ad esempio, dei televisori, dove loro hanno sempre primeggiato. Solo ultimamente sono usciti dei modelli che riuscivano a competere, se non a superare, la qualità video dei modelli Samsung. Quindi c'era anche da dire questo. Però se andiamo a analizzare nel particolare anche Samsung, la crisi coreana eccetera, non è che sta messa benissimo fondamentalmente. Ci sono tante cose che potrebbero far pendere l'ago della bilancia da uno o dall'altra. Quindi prenderei, insomma, con le molle questa sorta di previsione. Però abbiamo anche visto acquisizioni gigantesche, pensiamo tipo che ne so, quello che è successo con Walt Disney, per dire, oppure quello che è successo con, adesso non mi ricordo, altri tipi di realtà che hanno smosso milioni di capitali verso l'inglobamento. Quindi oddio, non vedrei esattamente la tecnologia messa in discussione con Sony, o quantomeno l'originalità. Però dai, come competitor a livello di intrattenimento, restiamo su questo, sull'intrattenimento videoludico, quello domestico di casa, penso che abbia abbandonato alcune delle velleità che sono costate care a Sony stessa. E qua mi riallaccio al discorso dell'architettura intenda di PlayStation 3, che ha avuto un sacco di applicativi, per carità, il suo cell, le sue componenti multicore, però non è stata sfruttata a dovere per una PlayStation. E quindi sapete quanto ha risparmiato adesso con tutta la partnership verso poi magari ne parliamo, dai, nel punto preciso della creazione di questo Power PC che sarà questa PlayStation 4. Quindi diciamo, secondo me c'è un ridimensionamento di vedute all'interno di Sony. Ha chiuso tra l'altro diversi settori, non so se tu e Peppe o qualcuno di voi avete letto uffici che sono stati ridimensionati, dipendenti che sono stati diminuiti di numero, spostamenti tra l'altro anche di uffici in zone strategiche meno esose dal punto di vista di spostamenti, di logistica. Questi sono degli indici che fanno pensare proprio che stanno andando comunque verso una politica non molto dell'investimento intraprendente, ma quello del controllo sicuro di quelle che sono le loro mire. Ecco perché anche la presentazione di Sony è risultata molto accomodante. Sì, hanno parlato tantissimo di futuro, ma in realtà è stare bene con i piedi piantati a terra, guardare davvero in maniera precisa a un certo tipo di modo di intendere il videogioco e di renderlo versatile per tutti, agli sviluppatori stessi in primis. E questo fa parlare non di innovazione o di faro che punta al futuro, quanto di una calma, tranquilla e riposante scelta strategica davanti un bicchiere di tè col miele. Beh sì, sicuramente poi appunto stanno cercando di pararsi il culo, diciamo, beh, di sì, salvare il salvabile, di cioè di ritornare almeno nel gaming quelli che erano un tempo, mangiandosi il pubblico Nintendo, quindi quello, almeno quello che Nintendo si è creato, quindi quello dei casual, non quello degli hardcore, e allo stesso tempo dando agli hardcore quello che vogliono, quindi un certo tipo di titoli e un certo tipo di grafica, di giochi e così via, perché in effetti nella presentazione sono visti sia dei titoli, come dire, molto casual, estremamente casual, sì, che titoli estremamente hardcore come quello di o Ubisoft, Watch Dogs, quello. Beh, mica male, mica no, male. No, ma infatti, per carità, io non vedo l'ora di giocarci, spero che, insomma, ma su che cosa prenderò in seguito, ad esempio, sono ancora indeciso, ma questo è un'altra questione data dal fatto che chiaramente per adesso non c'è modo di decidere. Comunque, perché... Ma ragazzi, adesso facciamo la modalità fantasma, cominciamo a immaginare cose che non ci sono, ma immaginate davvero degli occhiali proprietari Sony, che ha comunque un retroscena di esperienza, un background con gli occhialini 3D e comunque con anche quelli, diciamo, di realtà virtuale o altro, applicata nel mondo dei videogiochi. Cioè, immaginate veramente un Watch Dogs dove noi indossiamo questi occhialini e le informazioni ci vengono sparate direttamente sopra la lente e riusciamo a vedere le informazioni scritte, che quindi solo noi possiamo vedere, non le persone con cui andiamo a interagire, e attraverso queste informazioni riuscire anche a registrare porzioni di, attraverso la telecamera che sta all'interno del nostro occhio, all'interno dell'occhialino, quindi non registrare la telecamera in game, ma da quella che abbiamo sul dispositivo stesso, quindi a livello fisico, non virtuale, e poterlo registrare, vedere i nostri spostamenti di testa che muovono al contempo anche gli spostamenti di camera all'interno del gioco stesso, le registrazioni audio che possiamo sentire soltanto noi, cioè tante cose mi fanno immaginare che dico sarebbe fantastico avere questo nuovo modo di approccio al videogioco. Sì, permetterebbe sicuramente una personalizzazione maggiore del modo di giocare, perché se tu fornisci un certo tipo di informazioni in base a un feedback che ti viene dato dall'utente, solo quell'utente riceverà quel tipo di informazioni, quindi puoi rendere molto più vario il gameplay, no, più che il gameplay, l'esperienza del singolo. Ecco. Questa è la nuova esperienza di gioco, secondo me. Sì. Immaginatevi un multiplayer nel quale io posso ricevere informazioni da una persona che solo io posso vedere, e lo stesso può fare l'altra, e usarla contro di me. Cioè, immaginate questo, io immagino un multiplayer dove i personaggi non giocanti sono cosparsi di informazioni individuali su di me, e così come del mio avversario. Io devo andare a conoscere le informazioni individuali di questo mio avversario per poi poter andare a stanare in una base dove lui detiene un oggetto X. Ma quanto sarebbe fico avere questi occhialini e agire in perfetto anonimato. Beh, sì. Non solo, posso fare un co-op con due occhialini, questo è veramente il fantascientifico, però immaginate nella stessa stanza nella quale io ricevo informazioni sullo schermo dell'occhialino e non della televisione, e quindi tutte le informazioni sono segrete a chi mi sta giocando accanto, che sia mio amico o sia contro di me. Cioè, ragazzi, sarebbe qualcosa di meraviglioso. Sì, decisamente. Ma si eviterebbe soprattutto il problema del multiplayer, dove di molti giochi in generale, dove tutti hanno sempre la stessa esperienza e dove tutti giocano alla stessa maniera. Ecco, si potrebbero creare una certa varietà, un po' simile nel caso di Watch Dogs, ad esempio, magari simile a come può essere il gioco di ruolo di Cyberpunk, dove chiaramente se tu hai un certo ruolo agisci in una certa maniera, ma fantastico, riusciresti a gestire la cosa in maniera molto personale se lo fanno su quello stile che è molto aperto, ecco. Grande. Però... E poi immaginatevi un gioco stile Metroid, dove la scansione degli oggetti, ma anche un Resident Evil, se vogliamo, appare non sullo schermo sulla TV, ma sugli occhialini. quindi praticamente viene puntata tutta l'attenzione. Cioè, a me già mi è venuto il mal di testa. Cioè, mi stai praticamente facendo il passo evolutivo del gamepad, dello schermo del gamepad del Wii U, cioè quelle informazioni che in teoria si trovano nello schermo, sì, del, sì, secondario, vengono traslate negli occhialini, fondamentalmente. Sarebbe fantastico. Sì. Ma ecco perché il Wii U fondamentalmente ha titillato il palato di molti utenti, esatto, hardcore. Perché comunque presenta qualcosa di nuovo, di immersivo, in un senso quasi progressista del termine. Cioè, io entro ancora più dentro la cosa in maniera letterale. E non ci scordiamo. È anche più comodo, diciamo, cioè, anziché dover tenere in mano un pad enorme, sì, cioè, indossi un semplice set di occhialini e hai sempre comunque il tuo schermo secondario rivolto a quello primario. Sì, sai, mi si pensa, Peppe, adesso, mm-hmm, ad una. Magari con questo, se non volete aggiungere nulla, poi concludo con il punto. Sì. Una cosa che ha scritto Matteo Bittanti sul suo blog, mm-hmm, subito dopo aver visto la conferenza, a caldo, ha scritto: la conferenza Sony serve per non far rimpiangere, sì, gli utenti che hanno acquistato Wii U. Un'esperienza catartica, non me lo posso dimenticare. Cioè, penso che la dica lunga, sì, in, sì, maniera amara, purtroppo, però in qualche modo azzeccata su, insomma, chi si aspettava una prestazione ansiogena da futuro da parte di Sony, che effettivamente non è stata così. Chi lo sa, speriamo bene. Comunque, vai. Passerei al... Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Matteo Bittanti qui è come BioWare, è la stessa cosa. Sì, cioè, Mass Effect e Matteo Bittanti sono i due. Esatto. Quindi noi ci riempiamo di denaro nel frattempo. Beh, da Matteo Bittanti non credo, però. Matteo Bittanti, ricordiamolo per chi ci ascolta, sì, esatto, diciamo che è un ricercatore che sta alla Stanford University, italiano, e che ha abbandonato l'Italia comunque, però è curatore di molte pubblicazioni riguardo a videogiochi. Le collane sono quelle prettamente di videoludica e di ludologica. Mm-hmm. E niente, è stato presente in varie conferenze di sviluppo sui videogiochi qui in Italia, invitato da Yomi. Dico, a queste analisi che sono molto molto interessanti, perché ovviamente va a scavare a fondo all'interno di quelle che sono tutte le oscillazioni, le vibrazioni del mercato, tecnologiche, economiche, sociali, politiche, e una di queste affermazioni, insomma, anche su PlayStation 4 è stata una conferenza in cui si è presentato il more of the game, mm-hmm, e questa ce la fa dire tu, la dice lunga su more of the game al posto di more of the same. Esatto, bene, allora. Quindi. E anche it's in the game. It's in the game. E anche it's in the game. It's in the game. If it's in the game, it's in the game. Ah, certo. Allora, passo al secondo punto. Quindi, alla GDC, Game Developer Conference di San Francisco, sono emersi nuovi spunti di riflessione su PS4 dopo gli interventi degli sviluppatori. E un buon articolo riassuntivo è quello di IGN Italia, presente alla fiera. Leggiamolo e parliamone. L'articolo, allora, è stato scritto tra l'altro da Andrea Maderna, che saluto, insomma, salutiamo come, ecco, no, certo, quel vecchiaccio di Andrea Maderna, mio vicino, adesso in realtà penso che sia più vicino lui di quanto lo siete voi, credo ormai, sì, sì. Perché... oddio, non so tra te e Monaco de Baviera quanto è, cioè, non lo so, forse siete qui distanti ormai, quindi... comunque. Tolto ciò, lui si focalizza, diciamo, sulle i nodi gordiani di quello che è emerso dalla GDC per quanto riguarda PS4. Li distingue nella filosofia di PlayStation 4, che è simile a quella che dovrebbe probabilmente, così dicono, avere anche la nuova Xbox, quindi quella di essere un media center a tutto tondo per tutta la famiglia, quindi una specie di sostituzione delle smart TV con in più la capacità di gaming tipica di una PlayStation, ecco. E quindi le varie connessioni social, il sistema estremamente ottimizzato per permettere tutte queste cose, la possibilità ovviamente al digital download più ampliata rispetto a quella che c'era già in PlayStation 3, che tutto sommato, insomma, andava. Oltre a questo, quindi l'hardware, di cui molti sono lamentati a quanto ho visto, perché molti facevano il paragone tra come si chiama Crysis 3 e la PlayStation 4, Crysis 3 su PC ovviamente, e PlayStation 4 dicevano, ma su PC più o meno mi sembra che queste cose qua ci siamo, ecco, le abbiamo già. Quindi per alcuni è stato osteggiato, per altri invece c'è più la, per quanto riguarda la parte del sì, ma un tech demo così, bisogna aspettare nell'evoluzione della, della console in modo che venga sfruttata meglio. Quindi qui dice nell'articolo appunto che ci sono delle parti di, per quanto riguarda DirectX e OpenGL 4 realizzate appositamente per la PlayStation 4 ovviamente, quindi un'ottimizzazione maggiore del, di tutto l'hardware sia per quanto riguarda la, la parte grafica ma anche quella della, come dire, quella del, del, per quanto riguarda l'hard disk, quindi un hard disk più, più spazioso, più veloce, quindi con un'architettura migliore. Salute. Scusa. Quindi con un'architettura migliore e anche la possibilità di un ambiente di sviluppo più semplice, quindi senza uscire di testa, come che è stato un problema che forse ha flagellato, che forse che ha flagellato sicuramente la PlayStation 3, una notevole difficoltà di programmazione unita anche a una difficoltà di porting tra le due console per fare i giochi multipiattaforma. Quindi qui dicono che utilizzeranno il C++, Visual Studio, quindi insomma dei tool estremamente diffusi, utilizzati da tante persone. Salute. Vabbè, ma tu non devi, cioè tu vai avanti uguale, che cazzo, sei proprio un conduttore di merda. No, io sono una persona educata, quindi vabbè, tanto poi la tagli, che problema c'è. Io mi fermo ovviamente, così taglio e poi riprendo come se niente fosse, quindi... Okay. No, ma il bello è che è stato un risucchio gorgogliante, sì, con un'esplosione finale che non potevamo, non poteva non fermarsi, c'era proprio... poteva anche essere preoccupato per la mia stessa, sì, c'era roba lovecraftiana, una pompa idrovora che si stava strozzando, no, Cthulhu che ti esce dalla gola, cioè queste cose qui. Comunque vabbè, riprendo, concludi, sì, tutta esatto, questa intro. No, dai, non è una intro, sto parlando del punto e poi chiuso lì, ne parliamo. Okay. Alla faccia dell'intro, se no, cioè, avrei detto solo, oh, c'è il DualShock 4. Comunque, quindi riprendo. Ovviamente, quindi, massimo supporto ai vari motori e alle varie case produttrici, Avok, Epic, Unreal Engine e così via. Il nuovo gamepad PlayStation 4, che insomma, ovviamente ricorda quelli vecchi, non c'è stata forse un enorme cambiamento nel senso estetico, ovviamente, della forma del pad, cambiano le feature, quindi una possibilità di inserire l'audio simile a quella del controller Xbox, il touchpad molto importante, dotato di una notevole capacità tattile. I grilletti come quelli dell'Xbox. I grilletti finalmente, come quelli dell'Xbox, con una zona morta ridotta. Insomma, dovrebbe essere più, quindi più comodo, più utile. Io ho adorato il primo joystick della PlayStation. Per me, insomma, soprattutto a confronto, forse l'unico con cui se la batteva, il primo per me era quello del Saturn, che rimane secondo me uno dei migliori pad. Se Stefano, sì, per primo intendi quello ovviamente senza esatto, il primo proprio, okay, più perfetto, quando è uscito, poi anche chiaramente, sì, anche sì, quello con gli analogici mi aveva, come dire, sconvolto tra virgolette in senso videoludico, perché appunto era molto più comodo rispetto agli altri. E poi insomma c'è stata forse troppo da parte loro un adagiarsi sugli allori, dice ne abbiamo fatto uno buono, continuiamo così all'infinito, intanto non hanno mai sfruttato il Six Axis e così via. Il joystick, tra l'altro, questo nuovo sarà alimentato quindi tramite batteria via wifi, con delle sezioni colorate dietro per indicare il giocatore, Oltre a questo avrà la... Cioè, praticamente hanno integrato nel controller di fatto, esatto, il Move. Esatto, non è più nemmeno del Move. La PlayStation 4 Eye, quindi un simil sempre Move Kinect, chiaramente con potenzialità migliorate e altre cose che riguardano l'utilizzo come console da salotto, inteso come media center, quindi la possibilità di utilizzarla tramite la telecamera, una possibile integrazione appunto della realtà aumentata tramite la suddetta telecamera e il DualShock, che dovrebbe includere, come dire, tutte le cose che sono uscite della PlayStation 3, quindi appunto il Move, che non è che abbia avuto grande successo, e la vecchia EyeToy, però tutte incluse in un unico Hyper Mega Bundle. Oltre a questo, se ne era parlato anche nella conferenza della possibilità di condivisione, quindi della parte social, condividere il tuo filmato immediatamente, cosa che reputo personalmente relativamente utile, insomma, le altre parti social, quindi condividere tutti i vari punteggi eccetera con Facebook e così via, cose belle insomma. Di tutto ciò, di questa lunga presentazione, sì, cosa sì. vi è rimasto? Cosa vi ha colpito? Partendo da Luigi. Partendo da Luigi. Così allora, impara. Allora. Dunque, la parte social la lasciamo per il punto dopo, oppure la vogliamo integrare, perché il punto dopo era nuovi dettagli sulle funzioni social e interfaccia utente PS4. Vabbè, c'era un link a parte, magari la possiamo perdere. Lo uniamo a questo. Direi di unirlo. Sì, dai, tanto siamo qua, era un discorso unico. Guarda, dico soltanto questo, non voglio stare a vedere tutte le specifiche. Sottolineo i punti che sono stati aggiunti alla nuova alla spiegazione di PlayStation 4 dopo la Game Developer Conference. E faccio una considerazione iniziale. Paradossalmente, Sony parla di PlayStation 4 come piattaforma per tutti quanti. Quindi fondamentalmente una piattaforma che riusciamo, con cui si riesce a interagire, appaga i palati dei più grandi e più piccini, eccetera. Ma tutto quello che fa in realtà PlayStation 4 è una... richiede una competenza non indifferente rispetto a tutte le sue funzionalità. Non sto parlando tanto... mi pregherei insomma di cominciare un dialogo, così almeno ci confrontiamo. Sì. Non sto parlando dell'interfaccia, cioè tipo avrà questo, avrà il PlayStation Eye, avrà quello o quell'altro. Più che altro il fatto di sfruttarla in pieno in tutte quelle che sono le sue caratteristiche nuove. Penso ad esempio all'ambito social che tu prima hai nominato, la possibilità di PlayStation 4 di potersi collegare in remoto attraverso dei dispositivi dedicati, sia per Android che iOS ovviamente, e di poter permettere di sfruttare per ogni utente i salvataggi e quindi giocare contemporaneamente a diversi giochi che sono presenti nell'hard disk della PlayStation, anche se si è collegati in 3-4 persone assieme. Quindi tutto questo richiede comunque una competenza fra utenti, scaricare file, collegarsi, che secondo me segna proprio il passo tra quello che è l'utenza vecchia, di tecnologicamente avanzato o meno, e quella nuova. Cioè noi dovremmo avere nuove competenze per giocare con queste nuove console. E cioè, praticamente mi stai dicendo, come, scusami se ti interrompo, sì, Luigi, come se fosse una console per smanettoni, cioè la prima console per smanettoni, esatto, come c'è il PC per per gli utenti più scafati. Sì, la console da moddare, ma come, esatto, sulla PlayStation 3 ci hanno levato Linux proprio perché non volevano che la gente ci smanettasse, insomma, mi sembra un po'. Hanno fatto, sì, ovviamente come filosofia, no? Non penso che conterrà Linux adesso su questa versione di PlayStation 4, però comunque avrà un supporto pazzesco. Sony darà un supporto pazzesco agli sviluppatori, li terranno costantemente aggiornati, darà la possibilità di poter ampliare le loro librerie o sfruttare nuovi tool di sviluppo. Cioè il vecchio sviluppatore che stava lì col manuale giapponese da tradurre per capire come cazzo funzionava l'architettura non ci sarà più. Beh, e soprattutto, come dice Giuseppe, la console per smanettoni, cioè la vuoi apprezzare appieno sta PlayStation, impara a non essere pigro su quelle che sono le funzionalità di una console dall'inizio alla fine, perché ovviamente è questo che richiede una piattaforma quanto più aperta possibile, che tu poi ci sappia approcciare. Ricordiamoci i nostri Commodore 64 VIC-20. Con 64 dovevi premere, scrivere load, press play, premevi il pulsante e giocavi, ma era un'architettura aperta, ti forniva pochissimi strumenti la Commodore, eri tu che dovevi interfacciare, quindi più hai una... Beh, ma era un'altra epoca però. Sì, sì, sì, no, dico, però più è una realtà aperta e più sono richieste delle competenze. Perché? Anche perché... perché proprio sta convergendo, ho detto, non è più una console effettivamente, come adesso poi mi pare c'è pure nel uno dei punti in scaletta, è una convergenza ormai verso il computer di fatto. Siamo ormai lontani anni luce praticamente da quello che effettivamente noi, dal concetto vecchio di console, cioè quella scatola che tu attacchi al televisore, inserisci la cartuccia o qualsiasi supporto, accendi e già cominci a giocare. Qua invece ovviamente devi conoscere via via le varie funzionalità per poter decidere quello che vuoi fare. Ormai tutto, anche con quest'ultima generazione l'abbiamo visto, quando tu accendi ormai la console non è che ti parte subito come era anche, che so, con la PlayStation 1 l'immagine che ti chiedeva ovviamente di quello Sony, poi di inserire il CD. Qua no, ormai praticamente entriamo più in un vero e proprio sistema operativo in piccolo, dove ti fanno vedere insomma tutte le altre feature di cui si è ormai arricchita la console, quindi per quanto riguarda la vetrina del marketplace, il browser internet e tutte queste altre funzionalità che fondamentalmente sono sempre accessori al gioco, che dovrebbe essere la finalità prima della console. Fra cose interessanti, tra l'altro, ho visto che le nuove informazioni che potrebbe non troviamo su così facilmente su internet, si può utilizzare il nome il nostro vero nome come ID della PlayStation Network in maniera facoltativa, però se lo colleghi all'account Facebook, allora io sono a posto. Se colleghi l'account Facebook però devi utilizzarlo, quindi hai possibilità di collegarti con l'account Facebook, dove in realtà prima invece l'ID del PSN lo facevi tu inventandoti qualsiasi altro nome, adesso invece puoi collegarlo anche all'account Facebook. C'è un limite maggiore della lista amici, che supera i 100 del PS3. Era ora per questa funzionalità. Sì, insomma, 100 dai, 100 è un po' ridicolo, figura fittizia, no, però sai. A me comunque dispiace invece il primo, cioè perché mi sento come giocatore, come soprattutto come persona, violato nell'intimo della mia privacy, se poi effettivamente sbaglio un giorno, do il consenso per associare i due account e poi tutti sanno che magari non è il mio caso, perché io come nick più o meno ne uso uno molto simile al mio, anzi praticamente il mio nome e cognome, ma chi è che comunque non voleva farsi riconoscere, voleva rimanere dietro un nick fittizio, di fatto vero, vero, ma è proprio questa liquidità. Vabbè, però questo oramai è su tutto, cioè nel senso mi pare che qualsiasi applicazione, qualsiasi strumento oramai utilizza ti la possibilità, chiede se vuoi connettere, che tra l'altro è come posso dire, massificante da una parte, anche angosciante, però da un'altra bisogna ammettere che è comodo cioè, però è fondamentalmente come dicono da altre parti, è formaggio gratis, cioè una bella trappolona per topi, perché sì, questo loro, senza dubbio, loro in questa maniera carpiscono le tue informazioni, carpiscono i tuoi interessi e poi ne fanno comunque uso per veicolarti cose a te congeniali fondamentalmente. Questo fa parte del discorso di convergenza, anche visto da un punto di vista filosofico, che sta attanagliando e catalizza sempre più in futuro i servizi che queste nuove tecnologie offrono. Parlo di servizi adesso della PlayStation 4. Ma perché fondamentalmente prima... tu non stai più comprando una console, tu stai comprando come per il digitale, del resto per un Apple TV, stai comprando una scatola per avere dei servizi. Tant'è che infatti, scusami, è proprio la convergenza definitiva, perché anche il supporto, che fondamentalmente è quello fisico, è destinato infatti ormai a sparire. E loro faranno di tutto, anche tramite avere queste funzionalità di streaming di Gaikai, che in maniera tale che tu possa prediligere appunto il supporto digitale sì. o anche giocare in streaming piuttosto che andarti certo. a come faceva una volta prendere il supporto fisico. Ma ricordiamolo esatto. infatti che tutti i giochi saranno presenti su PlayStation Store, quindi qualsiasi gioco uscirà sul mercato sarà presente su PlayStation Store acquistabile in modo digitale, quindi c'è proprio tutta la libreria videogiochi che passa dal supporto fisico a quello digitale, e questo è già è teoricamente passo. Probabile anche prima dell'acquisto appunto tramite questa fantastica tecnologia di streaming. Dovrebbe essere sai come sto pensando? La mancanza di avere una forte autorialità nello sviluppare una propria architettura da parte di Sony per quanto riguarda la composizione hardware di PlayStation si rispecchia anche nella libertà proprio che ha concesso in questa sorta di liquidità di servizi, di sharing, di condividere addirittura il profilo personale, che dovrebbe essere qualcosa che identifica il giocatore su quella piattaforma sì. con il suo nome Facebook. Mm-hmm. Qui teoricamente fare entrare all'interno della propria piattaforma un servizio di social networking o quello di Facebook, che prima se ne vedeva bene di stare lontana da questo tipo di realtà. È diventata così pervasiva quindi la mancanza di anonimato che sembra quasi che perda carattere una console quando concede questa sorta di libertà di altri social network di confluire all'interno del proprio sistema. E è un nuovo modo sicuramente di vedere la realtà del videogioco e la realtà del giocare stesso. E una cosa che stavo pensando, che mi sono deciso di dire, l'importanza poi, questo non l'abbiamo detto, di rimappare le funzionalità di alcuni tasti sopra al joypad del DualShock 4, vale a dire il pulsante condivisione, lo share, può essere assegnato anche ad altri tasti se vogliamo, quindi per comodità dici non lo voglio tenere in quella posizione, voglio tenere su un altro, e questa è una cosa. Eliminare alcune funzionalità che c'era prima e potenziarne delle altre, tipo i tasti sensibili alla pressione, avete presente quando si accelerava in Gran Turismo sì. oppure si rimetteva l'arma in Metal Gear per intenderci, spariranno completamente sì, perché quindi sono solamente digitali, mi pare funzioni sì soltanto digitali e relegate e tornare indietro un po', no? Sì, e più che altro sai cos'è? Eliminare, questa la vedo io, questa pretesa progressiva di aggiungere nuove combinazioni che c'era prima, quindi di voler distinguersi, di entrare nel particolare, non perché non ce n'è più bisogno, ma perché hanno detto il mercato tanto non ha bisogno di questo a livello massificato, perché poca utenza, perché i videogiocatori sono diventati tutti una massa di pippe, in realtà quelli sì, che giocano seriamente sono pochi, insomma, dice perché andare a spendere sul touch sensitive, sempre per il solito discorso che loro sanno quello che tu vuoi, in realtà loro sanno dove vogliono indirizzare e dove devono lo sanno dove tu devi andare, statisticamente lo sanno, e tu ne sappiamo che la conoscenza statistica e il successo statistico eccetera si inferma a qualcosa di statistico, non è totalmente umano diversificato, quindi fondamentalmente c'è anche dire questo passo indietro che per loro comunque è un passo avanti, una sorta di scelta precisa, strategica, economica e altro. E parliamo anche dell'interfaccia utente. Praticamente l'interfaccia utente cos'è? È quella che si presenta all'inizio quando accendiamo la console per poter esatto. interagire. Quella che diceva Giuseppe all'inizio, che vedrà una commistione con quella che adesso attualmente è sul sistema PlayStation Vita. L'è chiamata anche Live Area. La live area di PlayStation Vita praticamente ci permette in tempo reale di poter ricevere tutti gli aggiornamenti da parte degli obiettivi ottenuti, download aggiuntivi eccetera sullo schermo di PlayStation Vita mentre stai giocando, quindi fondamentalmente hai questa possibilità invasiva di poter essere sempre connesso e aggiornato. Vogliono fare la stessa cosa con PlayStation 4, quindi voi immaginatevi che oltre a quello che avevamo prima, cioè la pervasività di qualcuno che si collegava e compariva il suo nome quando si era collegato, adesso avremo chi ha vinto gli achievement, chi si è collegato e sta vedendo magari la tua partita ma c'è anche questo da dire, la pervasività, se lo permettiamo, di altri utenti di vedere chi la ti pubblica partita. Un commento, perché ricordiamo che gli utenti possono anche commentare e vedere, visualizzare le tue partite in corso. Sì. Quindi commento, quindi messaggio, richiesta, partecipazione o altro. Quindi se noi terremo le funzionalità tutte attive, avremo davvero una realtà sì connessa, ma soffocata, se vogliamo, da qualsiasi, mi immagino anche messaggio pubblicitario in futuro potrebbe esserci, cioè non lo escludo. Sicuramente. Una cosa da spendere poi Ma poi scusami un attimo prima che vai avanti, ma sì. Questo secondo te, Luigi, non spezza anche molto l'immersione in un gioco? Sì, ovviamente sarà tutto facoltativo, esatto. Vabbè, cioè, nel senso disability che... chi se ne frega. Sì, sì, noi mandiamo via disability, è questo. Però sicuramente come concezione, ti dico la verità, Peppe, ci sono molti utenti, non ci crederai, a cui piace avere il senso di connessione mentre sta giocando. No, voglia. Se già, diciamo, molte prudentemente mi pare che PlayStation 4 ora finalmente la implementa pure, la stessa cosa che già avviene su 360 con la chat, quella di gruppo, no? Fondamentalmente, sì, e sì. Molta gente piace, io lo vedo pure appunto su live, magari mentre ciascuno dei partecipanti gioca a un gioco diverso, però tra di loro parlano. A me personalmente dà fastidio, perché insomma preferisco concentrarmi, sì. Però vedo che è una cosa molto, una funzionalità molto sfruttata. Beh, che poi la questione del social è tutta una scusa, cioè in realtà sì. Quello che gli frega è che tu gli porti dentro, come ha detto prima Luigi, i dati, insomma, quindi che, sì. che tu diventi parte integrante, consapevole dell'elemento statistico sul quale sì. loro lavorano, perché poi alla fine guarda, io posso comprendere sul Facebook l'achievement, no? Già, Peppe Saso ha vinto il platino a Cazzo Imperio, cioè adesso non mi viene nessun gioco. Bellissimo, ci ho giocato 40 ore di gioco a quello. Ma se e della Baglio, sì, sì, sì, ovviamente. E mentre che in realtà, ecco, cioè nel senso, la cosa poi deve diventare invasiva, tipo su Facebook appare Simone è cascato nel primo burrone al primo livello, sì. Bel coglione, capito? Cioè comincia a diventare, perché poi cioè, il mondo poi dopo si divide in quelli che si bullano, che fanno i video su YouTube no damage, cioè i giochi dall'inizio alla fine senza aver mai subito un danno, a quelli che insomma sono un po' più approssimativi e che però ovviamente magari non si rendono neanche conto del quanto è invasivo l'elemento social magari della console, quindi magari accettano qualsiasi cosa e qualsiasi cosa che fanno appare su Facebook. Quindi pure questa cosa, insomma, io spero che abbia sempre, non, vabbè, a parte il discorso facoltativo che è ok, ma anche nel non essere facoltativo comunque ci siano dei come posso dire, dei limiti, no? Nel senso dei livelli che tu puoi concedere alla console rispetto a quanto gli altri possono non solo vedere sulla tua bacheca, ma quanto gli altri possono poi interagire o partecipare nel tuo vivere la console, capito? Perché poi è pure questo, insomma, il discorso. Io c'è stato un periodo, sono stato a casa di un amico mio, lui era collegato in rete, stava giocando e tri gli apparivano sti pop-up con quello, dice: oh, che stai a fare? Oh, dai, e giochiamo. Oh, quando è? Ma perché sei connesso? Ah, dai, famo sta partita, cioè, stiamo a fare un'altra cosa, non mi rompete il cazzo, no? Cioè, però vabbè, questa è un po' una mia visione da vecchio, insomma. Dipende dai gusti, cioè lì l'importante è che diano la possibilità di non essere no, però, costretti, cioè, ad averlo, ecco, poi. No, però vedi, cioè, prima Peppe diceva, cioè sì, però io, nel senso, quando sto a giocare, sto vivendo la mia esperienza, non mi devi stare un po'. Vabbè, dipende cazzo. Dai giochi, magari. Chiaramente non l'ha detto in una maniera. No, sì, no, ma dico, magari, però io riassumo. No, magari tu ti stai allenando per una partita con tuo clan. Hai riassunto bene, Simone. Sì. Magari sì. Sto pensando una cosa, considerate però questo, che PlayStation 4, no, ok, molti utenti, molti acquirenti di PlayStation 3 non hanno comprato Xbox o Nintendo, per dire, magari non giocano nemmeno su PC, quindi si troveranno di fronte, e presumo che sia una bella fetta di mercato, a nuove funzionalità di chat in game, le cross chat eccetera, che magari noi invece qui siamo stati abituati con Xbox o con le chat su PC. Qui si troveranno di fronte però a sfruttare nel gioco da salotto le cuffie, che saranno, ricordiamo, comprese all'interno della scatola di default, quindi le cuffie che si collegano come l'Xbox dietro il pad, e con microfono a poter giocare a scambiare. Voi non sapete, però magari molta gente non ha giocato a FIFA, sai quanto ne conosco, oppure ai multiplayer di Uncharted per esempio, che molto ho giocato in rete, o quelli di Metal Gear, senza avere le cuffie, senza sapere con chi stava giocando. Quindi veramente sedia di livello e senza coordinarsi, soprattutto senza coordinarsi, certo. E questa è una cosa che praticamente noi che magari siamo più scafati, abbiamo anche provato l'esperienza multiplayer commentata fra di noi, molti utenti PlayStation invece si troveranno a farlo per la prima volta. E non è una cosa sottovalutare. Una cosa che aggiungo, tra l'altro, che non è stata mai detta, però presumo che sia così: i PC finora sono stati quasi totalmente tagliati fuori dal discorso console. Se tu giocavi su PC non avevi una connessione con PlayStation 3 o Xbox o altro. No, erano le console che c'avevano il loro mondo. O viceversa, va bene. Cioè, nel senso che comunque se già stavi su PlayStation Network non potevi interagire con Xbox né con PC. Sì. Bene o male, il PC non, di per sé, come logica, poteva benissimo non avercela sta limitazione. Certo. Cosa succederà, secondo me? Ci sarà molta più possibilità di avere un ambiente aperto e intercomunicante fra le console e i PC. Non fra console e PC, non sto parlando fra console e console, non penso che l'utenza Microsoft potrà interagire con quella Sony sullo stesso gioco, per intenderci. Però su PC questo invece potrebbe avvenire fra le varie cose, secondo me. Ovviamente è riferito al multiplayer cross-platform, in realtà già dei timidi tentativi, se ti ricordi, sì, siamo visti con l'altro gioco che avevi pure citato, Portal 2, se mi ricordo. Sì, scambiare, tra l'altro. Sì, esatto. Infatti la versione PS3 è ritenuta superiore da questo punto di vista, sia a livello tecnico, qualitativo, che possibilità di aggiornamenti, perché poi c'era un contatto diretto con Steam tramite Portal 2, che noi sappiamo che i giochi per console non hanno contatti con Steam o un account Steam. Eppure questi qui, insomma, della Valve avevano questo contatto più gli aggiornamenti, quindi c'era una bellissima comunicazione fra le due cose, e questa è una cosa bella, per esempio, per me, perché elimina questo cavolo di esclusiva che comunque spezza le barriere culturali e comunicative e cambia lo spettro di possibilità sociali e di conoscenza, perché sappiamo che se ti affidi a una console molte volte vuol dire che hai votato una bandiera e quindi le altre molte volte sono precluse. E, non lo so, io... Ci siete? Sì. Sì, io ci sono. Ci sono. No, sento dei suoni, non è che tutto no, sì, ma in realtà siamo caduti tutti, ma siamo tornati. Ok. Ma che ha fatto la Roma? Ha vinto 3-2. Lo ignoro. No. Ha giocato con la Lazio. Uno ti fa Roma, l'altro Lazio. Sì, dice, ci sono due Simone Pizzi. Erano entrati due Simone Pizzi. Esatto. Altrimenti, okay. Simone, però, ci sta parlando, sentendo. Perché Simone? Non... Io vi sento. Vi sento. Ma Simone, secondo me, è caduto perché non lo vedo. No, ci sto parlando su Facebook. Su Facebook. Su Facebook non guardo. Digli, guarda che sì, sei. Sì, no, gliel'ho detto. Vediamo. Quindi però non stiamo più andando avanti, suppongo. Io mi sono interrotto perché... Eccoci! Ecco. Ok. Onestamente non so per quale ragione l'hangout mi ha prima cacciato e poi mi ha fatto rientrare, però mi ha chiuso il microfono. No, quello lo fa, è normale. Dice che, dice che fanno, c'è troppa gente. Ma dei due Simone che erano spuntati in quel frangente, tu quale sei? Quello, io sono quello della laziale, realtà. Quello che ti fa, quello che ti fa là. io sono quello che ti fa la Roma, perché sono quello della realtà alternativa di J.J. Abrams. È un grande classico. Comunque, guarda, veramente Simone, giocatelo Bioshock, perché Infinite, che ha a che vedere anche molto con le realtà, con gli universi paralleli, quindi ma ci giocherò sicuramente. Mo mi messo la pulce, quindi Luigi, puoi riprendere da dove eri arrivato. Sì, no, volevo coinvolgervi anche voi, magari su questo paragrafetto che ho riportato, che non c'è adesso in quello che vi ho linkato. Penso c'è stata un'intervista al vicepresidente Epic Games, cioè Mark Crane, che ha parlato del fatto che la PlayStation 4 è un PC perfetto, per il gioco. Elogia la combinazione di hardware e software, dice che Sony ha fatto una mossa molto intelligente ad aprirsi a questa architettura PC e a metterci molta roba. Ha 16 volte la quantità di memoria che aveva su PlayStation 3. Anche se tu hai fatto una riflessione, non so se sta più avanti, magari dopo, forse vabbè, non te la brucia, no? Perché in realtà dicevamo, se in realtà la PlayStation diventa un super PC, diventa un po' come l'Xbox, sì, sì, nella sì, quali sì, saranno poi sì, le sue differenze. Sì, poi ne parliamo. Vabbè, infatti, vabbè, appunto, sì, quindi dicevo, quindi ha parlato di questo, ha parlato per lui questa è una cosa molto emozionante. Dice che Windows, per esempio, la maggior parte delle persone, per la maggior parte delle persone è limitato a 2 GB di memoria indirizzabile. E quindi una cosa del genere va oltre quello che la maggior parte PC può fare, cioè PlayStation 4, perché la maggior parte PC fa girare il sistema operativo Windows nella loro versione a 32 bit. E vi dico una cosa, ragazzi, non è da prendere sotto gamba, cioè Mark Crane, il vicepresidente di Epic Games, va a fare una sorta di paragone fra Sony e PC Windows, cioè io presumo che si lavorerà anche in ambiente Windows. Quello dico e quello nego, dentro Sony. Ma speriamo di no, sì, sarebbe una follia, dai. No, beh, no, aspetta. Però, no, ma cioè, sì, ma l'hanno detto che si lavora, cioè che per la programmazione si utilizzerà l'ambiente Windows. Questo che dico. Cioè, non è una ragazzi, Sony Windows, cioè Microsoft Sony, dove stiamo arrivando? Che sta succedendo? Vabbè, però, scusate, è come di. Vabbè, dai, ma. Scusatemi, appoggio un attimo le armi qua per terra. Cioè, neanche le butto, cioè non è che dico le appoggio, guarda, con calma, tranquilli. Entrate, fate quello che volete. Questo è il mio culo, tranquilli, cioè, non c'è problema. Nel senso, è proprio neanche l'onore delle armi. È proprio di ok, noi avevamo la nostra idea con la quale per un po' di anni abbiamo conquistato il mondo. Però poi improvvisamente questa idea non va più bene perché c'è pigrizia in giro, insomma, e perché non conviene magari anche agli altri. E allora a quel punto io vi propongo una mia nuova idea, che non è più una console, perché tanto noi abbiamo perso da quel punto di vista. Windows, viva Windows, viva Xbox, hanno fatto bene. Noi vi proponiamo una console che in realtà non è la console, ma sono le idee che stanno dentro la console, perché poi alla fine allora a sto punto è questo. Ecco perché hanno parlato di concetti. Hanno parlato di concetti perché la PlayStation 4 di fatto non è più una PlayStation. Sì, fondamentalmente è quello. Lo sviluppo di PlayStation 4 avviene su Windows 7 a 64 bit. Esatto. Ecco, mo lo stavo leggendo. Sony garantisce integrazione con Visual Studio e le cose che ha detto prima. Sì, Stefano. Sì, a posto. Cioè, qua abbiamo perso totalmente la, se vogliamo, la capacità di un'azienda di rinnovarsi da un punto di vista di architettura e di spingere la propria visione e il futuro per un qualcosa di totalmente accomodante su quelli che sono gli strumenti di sviluppo per le persone, per gli sviluppatori stessi, per gli utenti. La cosa bella è che sempre Rain, il vicepresidente, ricordiamo, di Epic Games, dice le cose che hanno annunciato di star sviluppando, il livello di comodità e tutte queste cose qui stanno facendo davvero perfetto PC per il gaming. Livello di comodità, prima parlavo di quanto la presentazione fosse qualcosa di accomodante. Ecco che praticamente qua esce fuori il termine, il livello di comodità. Allora a questo punto è una console non costruita attorno a un futuro del videogioco inteso come innovazione, ma attorno al futuro di come si può programmare il videogioco con calma e tranquillità, senza una visione geniale della novità e dell'originalità. Non è una visione avveniristica, è una visione stagnante, fondamentalmente. Sì, sì, sì. Niente, quindi okay. Io mi sono tristito. E su questa no, è vero, cioè mi sono tristito, considerazione direi di passare quindi al prossimo quesito, alla prossima questione, che cito direttamente quindi da quanto ha scritto Luigi. È una semi-segmentale, possiamo definirla così, una segmentale aperta. Cioè, una sì, cosa il diretto sviluppo di quello che. Però avrei voluto sentirvi voi, insomma, indignarvi, dire qualcosa su questi punti. Ma io ho detto, ho espresso. Cioè, tu sì. No, io purtroppo un nuovo MSX. Io Cioè, io... non ho la capacità d'analisi, magari, o che ne so, un certo tipo di potenzialità di approfondimento come possono avere grandi, insomma, che scrivono e parlano di videogiochi. Cioè, nel senso, a meno che il tema proprio in qualche maniera non mi colpisce. L'unica cosa che ti dico sinteticamente è che è quello che ho detto prima. Cioè, nel senso, un po' è. Boh, è forse il segno dei tempi, nel senso, uno ci sta, c'è un momento in cui dice ok, io più di questo non posso fare, quindi propongo altro sulle idee di altri. Però insomma, è quello che mi ha detto Morgan oggi o ieri, forse diventa uno spettro un po' più simile alla realtà oggi, non so perché, mi sono un po' intristito, non so che altro dire. Guardate, no, è più che comprensibile, e io sinceramente non saprei che altro aggiungere, cioè sì. Per quanto mi riguarda, appunto, non so neanche cosa pensare riguardo a un'eventuale unione tra i vari competitor, ad esempio. È una cosa che era stata tentata appunto con l'MSX, che aveva dell'hardware estremamente vario. Adesso non mi ricordo precisamente, dovete perdonarmi, il 3DO, che era un consorzio anche, no, ma il 3D esatto, no, ma l'MSX era proprio una partnership tra rivali, tra virgolette, quasi, e se non sto sbagliando completamente console, ma mi ricordo che era quella, e in più l'MSX era un computer comunque, non era insomma quella roba lì. Adesso non stiamo, questo utilizza quello. E in più, no, ecco, una cosa di cui ogni tanto si parla di partnership, eccetera, eccetera. Non so neanche se mi dispiacerebbe, perché magari si potrebbe avere, ok, da un certo punto di vista, un appianamento, diciamo, della varietà delle cose. Quindi una perdita, tra virgolette, dei fanboy, il che. Non è, esatto, non è un grosso problema, anche perché, cioè, io mi auguro che, superato un certo tot di esperienza videoludica, si smetta anche di fare le console war, ecco. Io non auguro. Forse l'unico vantaggio da quel punto di vista è che a un certo punto, vista la grande guerra anche di esclusive, no, metti per ipotesi un giorno ci dovesse essere una vera unificazione, non c'è più la giustificazione, se non per un fatto strettamente commerciale, dell'esclusiva di Tizio rispetto a Caio, e quindi dice, se volevi giocare tutti i giochi belli che uscivano in quell'anno, ce le dovevi avere tutte e due le console, quindi pure economicamente, no? Sì. Però ecco, a parte questo vantaggio qui, e al fatto che spariscono le console war, che insomma, ma quello è un problema relativo, diciamo, più che altro magari potrebbe garantire una qualità maggiore, data l'unione di grosse compagnie, ecco. Quello tutto sommato non mi dispiace. Sugli altri punti non aggiungo altro, ecco, mettiamola così. Avete decisamente detto tutto voi, non so se Giuseppe magari voleva, però scusatevi, vi state rendendo conto di quello che state dicendo? Cioè, se voi davvero seriamente ipotizzate un futuro con una console unica, no, ma non un futuro con una console unica, un esperimento io faccio ad esempio, la Sony smette di fare, ipotizzo adesso, tanto stiamo parlando, sì. La Sony smette di fare console, ok, diventa partner Microsoft per fornire dei servizi che convengano a tutti e due. Beh, okay. Anche perché i soldi dell'industria stanno nei giochi, ragazzi. Cioè. Sì, però sarebbe. Cioè, io una console unica, a parte che, vabbè, per me resta sempre un'utopia. Ma anche qualora questa cosa si concretizzasse, la vedo un po' come la morte del videogioco, fondamentalmente. Beh, ma almeno su console. Perché, scusa, non essendoci più concorrenza, non si è spinti, a maggior ragione ora che fondamentalmente ti ripresentano una console che è leggermente più potente, che ha 4 funzionalità in più, ma non di fatto non vedi quel salto di no, ma io parlo di unione tra competitor grossi, enormi, non tanto, cioè senza eliminare la concorrenza, cioè con una concorrenza ovviamente, ma con una possibile console unica Microsoft e Sony. Adesso proprio, ripeto, parlando per però già diciamo, se lo dici come console unica, mi sembra no console unica, appunto, inteso come partnership di questo tipo, non come esiste una sola console e noi possiamo solo giocare a quella, perché quello non è possibile, non è immaginabile, perché esatto. È ovvio che qualcuno verrà fuori con un altro tipo di console, come sta succedendo adesso con USA, sì, però eccetera. infatti so console che guardano un altro tipo di mercato, però quello sì, cioè però... nel senso che secondo me chi è diretto oggi al mercato AAA, cioè nel senso quello mainstream, secondo me, ecco, cioè nel momento in cui Sony fa una macchina che è programmabile in Windows 7, Visual più che cazzi e mazzi, cioè, vabbè, nel senso dice ok, ma a me chi me lo fa fa a fa un'architettura progettata da zero, che sia originariamente ideata da noi, che abbia bisogno di determinati presupposti per essere programmata, però è molto più potente, roba del genere, e chi ce lo fa fa a noi a dove spendere, investire soldi, a scannarsi con Microsoft, che comunque lei si terrà sempre la sua fetta di mercato, noi ci terremo la fetta nostra giapponese e via dicendo. A sto punto, cioè, nel senso, cediamo il discorso e parliamo dei servizi. Cioè, nel senso che la differenza tra le console sarà ovviamente chi sarà più in grado di offrire un certo tipo di... che poi in realtà secondo me saranno identici. Cioè, nel senso che poi ovviamente oggi Sony è uscita e ha detto io c'ho questa qua, la sto facendo così, farà queste cose qui. Microsoft ancora si è fatta i cazzi su, ma non ha detto niente, e dice nel frattempo, dice sentite, noi l'abbiamo progettata, però ascoltiamo pure quello che dice Sony, perché negli ultimi 5 minuti ci mettiamo queste ultime tre toppe, che poi è quello che ha fatto Sony con PlayStation 3, no? Nel senso che PlayStation 3 nell'ultimo periodo prima di essere commercializzata hanno provato a mettere toppe su cose che ovviamente loro non avevano previsto, insomma tutta una serie di determinate cose. Però ecco, cioè nel senso, come hardware ritorneremo al periodo in cui c'avevi cioè, il 486 SX o il 486. Stiamo tornando esattamente appunto come al mercato PC, esatto, di sempre, cioè. Fondamentalmente, dove l'unica cosa che manca, che cambia, è la il logo e la marca sul case, fondamentalmente. Sì, cioè nel senso che quello che c'aveva il 486 SX rispetto a quello che c'aveva il DX, c'aveva dei frame in meno, c'aveva esatto. dei poligoni in meno, c'aveva meno risoluzione, però il gioco sostanzialmente era quello. Vabbè. E andiamo a finire. Cioè, sì, secondo me andava a finire così. Mi sembra che nessuno le abbia sofferto a suo tempo della cosa. No, anzi, insomma. Quello è stato il momento. Quello del 486 in particolare è stato il momento de massima evoluzione del videogioco. Diciamo che il videogioco è stato frenato da questa generazione di console. Cioè. Qua introdurrei a questo punto il prossimo, sì, il prossimo argomento, sì. il prossimo punto. Esatto, riprendo. Lo vuoi leggere tu, Luigi? Così ti... No, sempre sempre la voce calda e suadente. Comunque. Allora, calda ce l'hai, la voce calda. La voce calda. Calda, suadente e isolata. Esatto, è con tante doppie dove non dovrebbero esserci. E con le vocali, un po' dove devono stare. Vabbè, vedrai che adesso la Confederazione ti correggerà. Sì, sì, adesso. Yeah. L'allego la Svizzera. Questo è un quesito persona. No, comunque. No, iniziamo. Quindi riprendo, come stavo dicendo prima, una semisegamentale aperta di Luigi che vado testé a leggere. Quindi, la differenza a livello di palette grafica fra una PS3 e una Xbox 360 oggi è ancora possibile notarla. A livello di resa video, le differenti schede grafiche permettono ancora di annoverare un diverso sapore, la diversa anima delle console. Ma se la PS4 è in fondo un power PC, come si presume lo sarà la nuova Xbox, e non sarà necessario fare salti mortali per effettuare porting dei giochi multipiattaforma, cosa diavolo distinguerà a video, a sapore, a colore Sony da Microsoft? Già. Che senso avrà l'avere sul mercato due giochi perfettamente uguali che girano su piattaforme con diverso nome ma che per potenza sono uguali? Aiutaci a capire, sì. Batman. Ma quello di Isernia, però. Batman. Esatto, Batman. No, quindi ecco. Che tra l'altro c'ha più di 12.000 fan nella sua pagina. Ah, insomma. È una così brava persona, dopo tutto. Comunque, uno che sta a posto. Sì. Insomma. In realtà, in questo punto, che in questo pezzo di sega mentale di Luigi, è insito un interessante paradosso, no? Perché se ci fate caso, da un lato, effettivamente loro hanno fatto, Sony almeno, ha fatto tutto questo. Tutta questa facilitazione verso gli sviluppatori affinché i giochi appunto siano spinge affinché i giochi siano fondamentalmente multipiattaforma, no? Quindi quantomeno i giochi sulla console concorrente abbiano un porting sulla propria, no? Però poi dall'altro effettivamente se sono due console dall'hardware praticamente quasi identico. Che cos'è che effettivamente ha sempre contraddistinto sin dai tempi delle passate generazioni, quindi che so, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Xbox, cioè, o PlayStation, che so, Nintendo 64, eccetera. Cos'è che ha sempre appunto contraddistinto? Le esclusive. Però da un lato appunto c'è, si spinge affinché poi questi giochi comunque siano non lo siano più, perché ovviamente vengano anche trasportati nella propria piattaforma. Non so se notate il non so se siano solo le esclusive che hanno, fondamentalmente sono sempre state quelle. Certo, ora ci sono pure di mezzi servizi, però se poi pure anche i servizi sono più o meno identici. Beh, vabbè, secondo me c'erano anche altre due, tu puoi un domani su che cosa la basi la scelta di prendere sul domani sono d'accordo. Il problema è che secondo me nel passato c'erano altri due elementi che non trascurerei. Uno era un atto di fede, cioè nel senso che chiaramente questo termine è un po' paradossale, un po' eccessivo, nel senso che chi era un PlayStationista preferiva la PlayStation, perché comunque effettivamente io perlomeno ho avuto questo rapporto così, nel senso che ho comprato anche l'Xbox per giocare a Mass Effect, però in realtà poi alla fine, cioè quando mi si è squagliata, non è che ne ho sentito la mancanza, no? Nel senso che comunque la mia console e la mia scelta l'avevo fatta, che nel bene e nel male, no? Sì, ma... E l'altro è il fatto che comunque secondo me, come dice Luigi, ogni oggetto nella sua progettazione, nel fatto che comunque PlayStation in qualche maniera aveva una sua estrazione anche genetica particolare, quindi era una razza in un certo senso, aveva modo di visualizzare, aveva un suo modo di farti ascoltare, aveva un suo modo di ammorbidire magari per certe cose, no? Quindi c'era il suo odore, il suo sapore, cioè nel senso c'era la differenza, c'era, quindi oggettivamente c'erano delle differenze e potevano essere, voglio dire, sufficienti per farti scegliere una cosa piuttosto che un'altra, come potevano non essere sufficienti, era soltanto una scelta magari ecco, come dicevo prima, di cuore piuttosto che di altro. Poi chiaramente le esclusive hanno fatto il loro. Sì, dico, ma tu questo atto di fede lo fai sulla base, diciamo, su una base nostalgica, non lo fai più su una base concreta. No, sulla 4 sicuramente non lo farei. Esatto, di quello che ti presenta effettivamente, certo, la nuova console. Certo. No, allora, io ad esempio l'ho sempre fatto su quello che mi presentava la console, perché quando... Tu sei, esatto, un boxaro. No, aspetta, beh, io però ho avuto... dalla PlayStation 1 ho sempre avuto PlayStation, ogni volta che sono uscite, tranne la 3. La 3 non so bene il motivo, ma non mi ha convinto abbastanza. Non so bene il motivo, perché, ripeto, io... quando mi sono trovato a scegliere tra le console, al tempo non è che avesse ancora un enorme successo, ma ho preso la PlayStation e l'ho fusa letteralmente, PlayStation 2 idem, sì. E ho perso quella, e ho sempre fatto più o meno il ragionamento cosa mi può offrire quella console a suo tempo, quando ad esempio c'era la differenza tra non lo so, il Saturn, per dire. Ma che poi guarda che secondo me non è stata la PlayStation ad essere poco sfruttata, perché era PlayStation che era poco sfruttata, è stata l'Xbox che ha ammazzato tutto, perché e questo è una... Beh, aspetta, Xbox... a suo merito, nel senso, mica che non è una critica, cioè è una critica per me, però chiaramente è anche un suo merito, nel senso che ha portato un principio di semplificazione, ok? Che è un po' il principio che c'aveva anche Jobs, no? Che è un po' la filosofia di un certo tipo di fare impresa americana, no? Cioè, nel senso, noi ti portiamo un'idea che per noi è tutto più semplice per noi, è semplice per chi ci deve lavorare, è semplice per chi deve acquistare, va bene? Tant'è che, voglio dire, ci stavano alcuni porting dei giochi su Xbox che era ridicolo, quando tu uscivi al gioco e dicevi ora puoi spegnere il computer, cioè cose del genere, oppure sul computer, che ne so, esci, ora puoi spegnere Xbox, no? Cioè, nel senso che poi in realtà spesso e volentieri questi giochi venivano programmati in parallelo, no? Sì, chiaramente, sì, no? Sì. Quindi il merito di Xbox è stato questo. Quando uscì la PlayStation 2, E qui forse, e questo forse sul, forse credo sia la cosa più aderente al, al concetto che voleva esprimere Luigi, credo, poi mi smentirà lui. Quando uscì PlayStation 2, o quando stava per uscire PlayStation 2, e vedevi i filmati di Metal Gear Sons of Liberty, e vedevi questa cosa, guarda che figo, guarda, vedi, c'è pure la barba, c'è una cosa, insomma, guarda che dettaglio, guarda che definizione, avevi la sensazione che dietro c'era uno sviluppo. C'era una ricerca, no? C'era un qualcuno che stava lavorando per offrirti una macchina che tecnologicamente potesse fare quelle cose lì. Invece Xbox ha detto: oh, dammi sto computer da 500 euro, buttiamo dentro sta scatoletta, se si squaglia sti cazzi, tanto poi lo ricambiamo, costa 500 euro, non è che... e boom, me l'ho buttato sul mercato e ha vinto. Però non c'hai più la stessa sensazione che c'hai avuto un tempo quando stavi vedendo qualcosa che stava nascendo e dicevi: guarda, questi, ah, perché dentro c'è l'emotion engine, i cazzi e mazzi, insomma, tutto il concetto con cui era stata sviluppata l'architettura di PlayStation. Questo è, secondo me... non assapori più il feticcio tecnologico, perché è come se sapessi già quello che c'è dentro la scatola, visto che sai. Ma sì, ma è... No, io sì, forse... Non è più quella scatola magica, esatto, di un tempo, sì, sì. Ma io forse mi aspetto, sì, sì, che vista l'annuncio così precoce rispetto a quello della Microsoft, di... Sì. No, perché precoce sono passati 12 anni, dico. No, precoce rispetto a quello, sì, che non hanno ancora, che la Microsoft, sì, non ha ancora presentato niente, mentre solitamente, sì, non dico che le cose andassero in parallelo. Ho comprato la PlayStation 3 e c'avevo tutti i capelli io. È vero. Ero magro. Comunque, quindi magari forse rimane ancora uno spiraglio nel vedere qualcosa di nuovo, grazie al fatto che le presentazioni vengono fatte in maniera così a distanza di tempo, con un'estrema distanza di tempo, perché chiaramente la Microsoft può vedere cosa ha fatto la PlayStation 4 e dire: allora io magari la posso indirizzare verso quest'altro punto, inserire queste cose qui, magari qualche cosa che loro non hanno fatto, e viceversa nel caso fosse stato il contrario. E nella generazione precedente, appunto, forse c'è stata un po' questa mancanza, se non per i servizi, appunto. Cioè, io il problema che vedevo in giro dalla gente era sempre: ma io il PlayStation Network non lo pago, il Live sì. Cioè, era la questione principale nel prendere una PlayStation o Xbox 360. Era quella che dovevi pagare di più con una o di meno con l'altra. Non era la libreria dei giochi, non era il controller, insomma, chiaramente non sto parlando di giocatori hardcore, però l'uomo della strada, mettiamolo così, ecco, si preoccupava di altre cose alla fine, perché l'hardware non risultava estremamente coinvolgente per l'utente, almeno da quanto ho visto io, tanto da farti pendere per uno o per l'altra. E anch'io tuttora non mi sognerei mai di mettermi a litigare con qualcuno perché a litigare no, a litigare tra virgolette, a discutere con qualcuno su è meglio la PlayStation 3 o è meglio l'Xbox 360. Cioè, non hanno, nessuna delle due ha troppe cose in più o in meno per dire che l'altra è meglio o peggio. Io personalmente mi trovo in equilibrio con le due console. Il fatto che appunto abbia una 360 forse mi è sconosciuto, per, come dire, per regolarità avrei dovuto prendere una PS3 per abitudine, però forse volevo anche vedere cosa era rimasto da quel buco lasciato da Sega, anzi da Sega, e, dato che, ecco, c'è da dire quello, avendola mollata dopo il Mega Drive e poi ripresa col Dreamcast, vedendo come poi era finito il Dreamcast, che io appunto non finirò mai di dire che ho adorato con tutto me stesso, mi è sempre lode al Dreamcast, console fantastica, dico: beh, cosa mi faranno dopo? E alla fine non mi hanno innovato tanto quanto mi aveva innovato il Dreamcast, sinceramente, con tutte quelle particolarità, con tutte quelle cose strane, gli add-on, i giochi, aveva tutta una serie di idee incredibili, a cominciare dalla memory card, che era anche una simil pocket station, quindi potevi andartene in giro con la memory card, riprendere, scambiare, fare, che appunto adesso invece noto un appianamento e spero che la cosa non si riverifichi, perché preferisco sinceramente passare una settimana a dire a chi devo dare i miei soldi, a questo o a quello, piuttosto che fare amarabaci cicocco e dire beh prendo questo, tanto uno vale l'altro, ecco, mettiamola così, prendi quello che scegli. Sì, cioè a questo punto sì, mi dicono guarda la console presenta queste cose, l'altra presenta cose quasi identiche, dico beh vabbè sì, posso anche prendere quello prima. La cosa più divertente sarebbe a sto punto, facendo sto ragionamento, se qual è la prossima fiera che fanno? L'E3. Sì. Alle 3 sì, presentano l'Xbox e dicono esce domani, cioè esce fra che ne so, a giugno. Quello sarebbe un colpaccio alla Steve Jobs, dai. Quello io penso forse il mercato, non so, magari così in quella maniera lo sciocchi il mercato, non so se però sì. potrebbe pure reagirti bene, no? Nel senso che sì. No, per carità. Luigi, sulla sua saga mentale. Soprattutto se avevamo colto il senso. Beh sì, no, io sì, okay. Diciamo, quando si fa una sega mentale è una sega mentale, quindi ognuno se la fa a modo suo, dice. Sì, hanno colto il senso, la butti lì, poi sai. No, pensavo più che altro che stavo guardando adesso il mio Nintendo Wii U parcheggiato qui. È acceso forse, ci avrò giocato in totale una ventina di ore da quando l'ho comprato. Facciamo 30 ore, non di più. Ho pensato perché ho preso il Wii U? Semplicemente perché aveva una nuova interfaccia, oltre alle esclusive. Prima, il discorso che facevate sulle motion engine, le proprietà, diciamo, in cui le console amavano spingersi tecnologicamente oltre per non solo innovare il mondo di gioco, ma per sfidarsi, quindi superarsi a livello tecnologico. C'è solo un modo oggi potrebbero controbilanciare quella tensione ideale che avevano: creare nuove interfacce. Quindi creare delle possibilità in cui si spinge tecnologicamente, e torniamo al punto primo, in un nuovo modo di intendere il videogioco, e non lo stanno facendo. Cioè hanno creato semplicemente un PC con un sacco di versatilità eccetera, per carità bellissimi giochi che magari gireranno sull'una o sull'altra in esclusiva, ma fondamentalmente non hai più quel brivido pionieristico. C'è da dire comunque, scusami Luigi, che in realtà loro in questa generazione, sono d'accordo comunque, in questa generazione comunque ci hanno provato con l'interfaccia, ci hanno provato ovviamente copiando spudoratamente da Nintendo, no? Esatto. E hanno fallito ovviamente miseramente, quindi e dietro ci avranno comunque a prescindere dal fatto che hanno copiato, comunque dietro ci saranno stati ovviamente investimenti che non hanno alla fine dato i loro frutti. Esatto, dato i loro frutti. Basandosi proprio su questo, hanno, secondo me, anche c'è stato uno dei fattori scatenanti che ha deciso appunto di in questo caso Sony a ripensare e buttarsi solamente questo, sui servizi. Guarda, ti dico una cosa Giuseppe, questo è un grosso peccato. Sì, ti spiego perché. Ne sono comunque consapevole, era proprio per dare adito a quello che stavi dicendo. A me mi spiace tantissimo per un motivo molto semplice, perché loro, al contrario di Nintendo, che si occupa solo di gaming, hanno una sorta di controparte di bilanci, quindi intercomunicanti fra loro, in cui puoi investire anche in diversi settori o diciamo diminuire l'investimento in altri, per i quali tu devi innovare. Devi innovare, perché la capacità, i videogiochi sono i nostri sogni, quindi se sono i nostri sogni, i sogni devono essere nutriti, se vogliamo continuare a sognare, come l'ossigeno. Quindi se i videogiochi sono questa capacità, questa possibilità di farci sognare, tu devi darci nuovi ossigeno ogni volta, altrimenti noi moriamo, senza aria crepiamo. Cioè ci sta stretto quello che ci propongono. Allora io dico questo: tu che puoi, devi per forza buttarti su un tipo di innovazione che possa riacquistare un'utenza da qualsiasi punto di vista, per carità, però in maniera innovativa, pionieristica. Il discorso che ha fatto Nintendo e con cui riesce magari ad andare avanti. Se non fai questo, se non c'è più una guerra ovviamente agonisticamente buona fra interfacce, fra capacità diciamo di immergerti, presentarti un nuovo modo davvero di intendere il videogioco, la generazione, quella che conosciamo noi, prima o poi cadrà, cioè dirà sì, ok, bellissimo, stupendo, ci sono cose nuove, ma non c'è più quella spinta ideale. E l'idealità, questa qua, è morta oggi con un sinonimo tra il plagio e il copia e incolla. e la citazione. Se ci fate caso, guardiamo i comportamenti su Facebook, ora facciamo un minuto di indagine sociale, la gente pubblica su Facebook o i copia e incolla oppure le citazioni, e comunque tutto questo diventa non è più sinonimo di plagio. Cioè, noi ci accaparriamo di contenuti, li crediamo che siano nostri, li prendiamo, ci sentiamo felici, quel brivido che ti dà nel pubblicare qualcosa, senza pensare che non è originale quello che stiamo facendo, non è un tuo contenuto proprio. Ci scoppia la bomba a Boston e tutti quanti, come dice Simone, che io ho approvato oggi, gli ho messo un bel mi piace. Basta, finiamo con sto fatto di mettere il bambino morto a Boston, eccetera. Perché? Perché tu non ti puoi appropriare di qualcosa così grande e mostrarti indignato o far parte di una massa con un semplice click. Ci devi mettere di tuo e creare un tuo contenuto originale. Cosa pensi davvero di questa cosa? Sei interrogato con un microfono in mano, ti dicono dimmi perché lo stai dicendo, cosa ti muove, cosa si può fare e cosa ti indigna, eccetera. Molta della gente si sarebbe spiazzata. Tu dici non deve fare tutto così. Non è questo il problema, è che l'originalità viene soffocata. Perché se io provo a dire la mia, prima che tu leggi sulla tua bacheca il mio pensiero, verrei soffocato da 300 altre persone facilone. Che hanno detto la stessa cosa, che hanno riportato la stessa cosa. Che hanno riportato, non più che altro la stessa cosa, che hanno riportato molto più facilmente un loro pensiero copia e incollato. Allora, scusa, io che legittimità ho che devo invece crearmi il mio pensiero, la mia forza di intraprendenza, eccetera, il mio cervellino, se vengo soffocato dalla facinoria con cui tu stai su un livello di democratizzazione di questa piattaforma che ha l'accesso, lo fa diventare un eccesso. Pensa anche a maggior ragione ora, visto che ci sarà, che pensa questo pensiero, questo copia incollare esteso con tutte queste funzionalità di sharing, per esempio, che esatto. PlayStation 4 ci offrirà. E certo, è uno spettro. Saremo inondati da miliardi di filmati di Perfect Kill, eccetera, eccetera. Come se su YouTube non ce ne fosse già una sovrabbondanza. Esatto. Vedi, il concetto di che sia di progresso molte volte sembra una freccia sparata verso il futuro, quindi una cosa che sta nel domani, il progresso. Allora ecco, vedi che molta gente acquisterà PlayStation 4 o preferisce comprare l'ultimo BioShock al posto del primo, perché se è uscito dopo vuol dire che è meglio. Ne parlavamo con la puntata del Vigamus con Simone, di quel bambino che è interrogato sul retro gaming. Sì, quella frase, i giochi da tavolo non mi interessano. Interessa. Simone ha detto, ma lo sai che grazie ai giochi che c'erano un tempo, che esistono i giochi attuali, cui giochi tu? Sì. Non me ne frega niente, il passato è passato, il presente c'è. Che poi tra l'altro io ho ricevuto già una serie dei commenti dicendo, cioè, Luigi si è accanito contro il bambino. Sì, sì. È rimasta qua, eh. Ma sai perché? Perché a parte, vabbè, è un bambino, quindi non si può dire nulla, ma la sicurezza, la protervia con cui l'ha detto, sì, era un po' come a dire, questa è la verità, è inutile che presupponente, sto sicuro. Sì, sì, non giusto, cioè, questa è la verità, non è inutile discuterne, non cambierò idea. Questo è. Ecco perché il concetto di progresso è errato pensarlo in una linea retta che da un punto A va verso un punto B, che è il futuro. Il progresso è anche l'innovazione, cioè quando tu riesci a ridefinire il tempo dell'innovazione. Ecco perché ho preso Nintendo Wii U a occhi chiusi. Non me ne frega che lo giocherò in tutto il suo ciclo, il totale di 2 settimane. Però il momento in cui ho approcciato al Wii U, a Zombie U, e riesco a godere del nuovo pad, le nuove, quello già mi hanno ripagato del giro di giostra. Sì. Ecco perché dico, magari tutta questa mia pippa mentale sul fatto che insomma bisogna essere più intraprendenti, chi se lo può permettere, perché altrimenti non sei un vero uomo se non ci metti le palle in quello che fai. Vabbè, comunque, chi si estranea dalla lotta, eccetera eccetera, quindi in conclusione qui veramente ci ha messo il tocco di poesia qui, esatto. Sì. Chi c'ha la possibilità, chi c'ha le armi deve, ragazzo, se per un, se ci tiene, soprattutto, sì. Quando non, soprattutto quando non ci sono i morti, cioè, nel senso, qua non sta parlando di guerra, qua sta parlando di far sognare ancora di più le persone, creare nuove possibilità, nuovi modi di immergerci ancora più nel videogioco. Ma sì, non si danneggia nessuno, non si, anzi, ma no, il contrario, anzi, si cerca di nuove prospettive, esatto, nuove frontiere, di migliorarci, di migliorare in una serie di cose, come per insomma di non rimanere attaccati a quelle che sono le proprietà classiche dell'argomento, della certo. cosa. Comunque, io direi di passare quindi al prossimo punto. L'ultimo sì. punto, quindi, che leggo anche qui da ste. Allora, se pensate che il progetto di PlayStation 4 sia stato improvvisato in 448 in quel di Sony, sappiate che vi sbagliate. La console di nuova generazione dell'azienda giapponese è infatti stata in fase di progettazione per 5 anni, come rivelato dal vicepresidente di Sony Worldwide Studios ai microfoni di Edge. Segui il link e quindi, appunto, da questo traiamo le conclusioni. È stata in progettazione per 5 anni. La PlayStation 3 è uscita... Quanti anni fa? 6 anni fa? Ma no? Posso intervenire subito? Certo. Vai. Cioè, visto e considerato che da quello che abbiamo capito in realtà sta PlayStation non ha un'architettura progettata da Sony, insomma, nel senso, in realtà è, come ha detto Luigi, è una sorta di mega PC. Quello che io mi domando, no? Cioè, questi durante sti cazzo dei 5 anni, no? Che hanno fatto? Stavano dentro la stanza e si guardavano. Ma che fanno? O famo un PC? O famo un PC potente? O se la inventiamo da zero? Non lo so. Secondo me dovremmo fare un PC, ma sto PC come lo volevo fare? Proprio potente? Oppure, e chiediamo, che ne so, alla AMD se ci fa una scheda fra due generazioni. Ma guarda, secondo me non ce la fanno perché ancora non c'hanno la tecnologia. Sì, però è più 5 anni, sono andati avanti così questi. Cioè, che vuol dire in progettazione da 5 anni? Alla fine hanno detto: no vabbè, allora buttiamo tutto su social, dai, tutti connessi. Social. Ragazzi, c'ho la genialata, cioè l'ho qui, social, tutto social. Sì, dovemmo da svoltare adesso, ragazzi. Ha detto il capo che qui se sta botta andiamo male, so dolori, e 5 anni, qui si andano avanti. Cioè, io non la farei una dichiarazione del, io non la farei una dichiarazione del genere. Capito? Cioè, nel senso, non farei uscire ste notizie. No, vabbè. Perché veramente è inquietante. A meno che veramente tu dici: oh, noi vi abbiamo dato delle notizie parziali, ma in realtà dentro PlayStation 4 c'è sta una tecnologia che voi neanche lo sapete. Capito? E vabbè, come diceva Marco quando è intervenuto qua dicendo: cioè, ma l'abbiamo specificato che ci potrebbero essere problemi con il reattore di curvatura e cose del genere. Vabbè, scherzando un po' sopra con Luigi, no? Cioè, nel senso, vabbè, sì. Ma cioè, veramente 5 anni, io sono basito. Cioè, non solo esco da questa puntata triste, ma esco anche basito. Beh, aspetta, nel senso, io trovo che abbia senso il fatto che si siano messi subito, poco dopo l'uscita di PS3, a lavoro su una nuova console, una cosa che fanno sempre sia nei videogiochi che per quanto riguarda l'hardware. Ne fai uscire uno. Ma sono passati 12 anni, di che stiamo a parlare? No, quanto tempo fa uscita, scusa, la PS3? Perché io ogni tanto mi perdo nel mondo del... Di ma 2006, no? 2007 in Italia. Sì, 2007, 10, 11, 12, 13, vabbè, sono 6 anni. Effettivamente, ecco, in 6 anni qualcosina in più probabilmente nella progettazione me la sarei aspettata. Ripeto, c'è da dire anche che... Anche perché sta roba social, scusa se ti interrompo, sì. Guarda, mi dispiace, sta roba social in realtà è più una cosa dell'ultimo anno e mezzo. Cioè, oddio, è roba che ci portiamo avanti da 4-5 anni, quello che ti pare, però l'esplosione, e quindi tanto da puntare il dito e la tua direzione anche commerciale su quello, è una cosa molto più recente, da quando sono usciti i giochini su Facebook che sono diventati gli stessi su Android e su... cioè, nel senso, questo aspetto come posso dire, prematrimoniale insomma sul social, cioè vuoi dire, sì. È una cosa molto recente, cioè non è una cosa che, quindi, cioè, io continuo a ribadire il fatto che capisco quello che vuoi dire, Stefano, sì. Cioè, nel senso, c'è sta anche, no, il fatto che questi poi comunque, quando un'azienda si mette a fare la progettazione di un discorso commerciale, perché ovviamente per loro è un progetto, prima deve essere un progetto di mercato, poi deve essere un progetto tecnologico, poi deve essere un progetto di comunicazione, quindi sicuramente c'è un lavoro dietro, io non lo metto in discussione, però ragazzi, per quello che hanno detto, cioè, 5 anni sono inquietanti, cioè, nel senso, è veramente, ti immagini questi dentro una stanza, che sti quattro giapponesi, perché io me ne vedo quattro, che stanno lì e si prendono a capocciare, dice no, cioè, che cazzo avete fatto 5 anni? Cioè, ma se venite in azienda da me, vi prendo a pizzettoni, cioè, vedo che state fermi a guardarmi in faccia a chiacchierare, capito? Cioè, boh, no, io diciamo che voglio un po' andare controcorrente in questo. Contro di me. Esatto, soprattutto contro di te. No, io spero, mi auguro, che, come dire, non abbiano mostrato tutto, che bisogna dargli tempo. Perché ci permettano di usufruire magari di determinate cose, gadget, accessori o anche aggiornamenti del sistema e così via, al di là proprio dell'hardware tecnico, ma di tutta una serie di un corollario di cose che permettano di creare delle esperienze nuove. Appunto, ritorniamo al punto iniziale, quindi degli occhialini ad esempio, però insomma una serie di cose. Io voglio essere fiducioso, perché immotivatamente fiducioso, mettiamola così, nessuno mi costringe, ma voglio, perché non c'è nessun motivo reale, in effetti, no, cioè non c'è nessun motivo reale per esserlo, però mi auguro, esatto, che sia così, perché ne andrebbe, cioè va solo a mio vantaggio, ecco. Io non è che ci provi gusto nel dire che la presentazione della PlayStation 4 mi ha deluso, non mi ha fatto emozionare, anzi il contrario, io avrei preferito stare qui adesso a sfregarmi le mani e dire oddio quanto manca, quando è che esce, oddio voglio farmi ibernare finché non esce la console, queste cose qui, voglio fare un pre-order anche se non sono i pre-order, ecco, cioè, io preferisco una cosa così piuttosto del boh sì vabbè, speriamo che Microsoft faccia qualcosa di diverso, vediamo così. Quindi voglio essere fiducioso, voglio dare fiducia alla Sony, ma anche alla Microsoft, sperando che non facciano tabula rasa di tutto quello che è stato il passato e cerchino di innovare in qualche maniera, anche se non sarà nell'immediato, insomma, posso aspettare, ecco, per quello va bene. Circa, spero. Tanto abbiamo già aspettato una generazione di 7 anni. Sì, insomma, anni, a questo punto posso aspettare neanche 8-9. No, posso aspettare 8-9 se mi tiri fuori qualcosa. È chiaro che se però, sì, dopo che esce la console, le console, anzi, e rimane tutto così com'è. A me girano le palle, mi compro ma io Uja e ciao, cioè. Ma io, oddio, Uja è un investimento ancora più sbagliato, sì, però vabbè, questo poi ne parliamo magari dopo. No, io più che altro, intanto voi siete intanto anche convinti che tutto quello che hanno sbandierato sarà disponibile, attivo al day one? No, non saranno i DLC della console stessa. No, a parte gli scherzi, secondo me molti di quei servizi all'inizio non saranno pagamento. Non saranno disponibili, disponibili solo in alcuni territori. Sono d'accordo. E noi diciamo stiamo a parlare di quello che viene anche dopo. E questa è la cosa. Ma io voglio, ho sempre mantenuto questa speranza da sempre. No, ma sentite, voglio sapere la mia, ma non la voglio buttare, sì, in caciara. Però sì, io mi sono comprato la PlayStation 4, l'attacco tramite HDMI. Sì. Al televisore c'hanno PlayStation 4, zoom, scritta PlayStation 4. Il ficco il disco del gioco che mi sono comprato e mi metto a giocare. E poi dopo che continuo a giocare, dico: vabbè, ma che è cambiato? Rispetto a che cosa? Cioè, che cosa è cambiato rispetto alla 2? No, nel senso che cioè, stai sempre facendo la stessa cosa. Prendi il pad in mano, metti il gioco. Bravo. Hai solo upgradato quello che. Perché tutti, capito? I servizi, le cose, l'occhialetto, Simone, il 3D. È cambiato che il tempo dal quale tu hai configurato la console, inserito il disco e avviato il gioco, si è dilatato in maniera enorme, perché ci sarà un controllo del DRM, che non è un gioco usato, metti caso, che dovrai ancora prima capire effettivamente, appunto, come dicevamo prima, come accedere nell'interfaccia alle varie funzionalità. No, io l'unica cosa che ecco, forse oltre al fatto di quello che è cambiato, l'unica cosa, sì, che mi aspetto sono alcune complicazioni, tipo nel senso tu l'accendi, imposti la data e l'ora, poi a un certo punto ti chiede le password per la wifi, ok, gli dai anche quelle, poi ci senti, io voglio usare il mio utente di Facebook, ma sei tu? So io, ma sei proprio sicuro che sei tu? perché poi c'era Windows che fa, cioè Windows quello prima del 7 pare faceva così, c'erano questi problemi qua, tipo poi sicuramente non sono molto convinto che sei tu, però sai. poi seguendo magari anche la moda del Wii U ci sarà anche al day one un mega aggiornamento da scaricare. Quello sti cazzi, quello oramai è una prassi. Ascolta, lo fa Windows, sì, da Windows 95 praticamente. Esatto. Ormai mi sono tutto abituato. Quando compri il gioco, vai a casa, compri il gioco. Sì, la prima cosa che fai è scaricare le patch. Sì. Sì, cioè, sì. Non è neanche un male da un certo punto di vista, ma non entriamo nel male. È un male perché loro sapendo, ne abbiamo già parlato. Non voglio entrarci, volevo solo fare il cenno. Ecco. Non entriamo. Vabbè, io comunque mi immagino questo. Cioè, questo. Vabbè, adesso fate il giro voi, quindi anche Luigi e Giuseppe. Però poi vorrei che concludesse proprio con la vostra. Cioè, avete immaginare a questo punto, veramente finiamo proprio con la super pippa mentale. Estendete un attimo la vostra fantasia. Cioè, avete la PlayStation in mano, la state a scartare, la state ad attaccare al televisore. E che succede? Salta la luce. Non lo so. Quello sicuro, perché corrotto il disco, non lo so. Ma no, le bestemmie. No, in Svizzera è molto difficile che succeda, però. Certo, voi c'avete il CERN che casomai divora tutto il resto del mondo. Io l'ho già detto, io ho dovuto spiegare a uno svizzero cos'era un blackout, quindi, cioè, perché non lo concepiva. Cioè, anzi, lo concepiva, ma mi diceva: perché dovrebbe succedere? E ho detto: boh. Vabbè. Comunque. Andiamo avanti. Allora, io dico una cosa. Luigi. Dunque, praticamente ci sono alcune informazioni da dare su questo punto che non l'ho proposto io, tra l'altro, volevo specificare. Perché l'avevo indicato io. Te ne lavi le mani. Sì. No, perché insomma sembra quasi, non l'avevo proposto effettivamente, è stato dicendo l'avevo indicato io perché comunque ci stava bene per chiudere, sì. Perché tiravo un po' le somme di quello che abbiamo detto negli altri punti, insomma, di tutto quello che abbiamo questionato, e poi però ci vengono a dire che loro avevano già in cantiere tutte queste idee da 5 anni a questa parte. Sì. Questo Michael Denny che lascia queste dichiarazioni, che adesso tra l'altro vado a leggere, forse ho tagliato un pezzo, chi è? È il vicepresidente di Sony Worldwide Studios, Sony potrà, l'altro è la società con un maggior numero di sottosocietà, cioè veramente io quello che vedo da Sony è veramente diventato il gioco del 15, insomma. Prego Luigi. Sì. Allora, diciamo praticamente che oltre ad aver ribadito la centralità di PlayStation 4 per ciò che riguarda il rapporto con gli sviluppatori e quindi andare incontro alla loro creatività, loro volevano, qua dice che volevano avere, lui ha dichiarato che volevano avere un feedback anticipato sullo stato delle console di attuale generazione, sullo sviluppo per queste e alcuni pensieri per il futuro. Quindi praticamente questi 5 anni di brainstorming in realtà sono stati anche una sorta di analisi e poi messa in opera a livello ingegneristico di quello che erano le tendenze del mercato, ma da un punto di vista molto core, molto legato al centro di quello che fanno gli sviluppatori. Quindi, mentre prima le console della Sony se ne fottevano degli sviluppatori, cioè magari chiedevano consulenza, magari andavano incontro a quelle esigenze, però la struttura proprietaria era: vi diciamo noi come deve essere programmato, cosa potete assegnare, le librerie, bla bla bla, tutto ciò che riguardava fondamentalmente il software implementato nell'hardware. Qua è stato molto diverso il lavoro da fare, quindi c'è stata un'apertura verso gli sviluppatori che ha richiesto a quanto pare tempo. Però c'è una cosa che dice, l'intervista parla della scelta del nome di PlayStation 4 al design definitivo della console, che non è stata ancora mostrata. E tra l'altro c'è anche riguardo il prezzo, che a quanto pare si dice che non sarà così esoso come la PlayStation 3 all'uscita. Sì, che ricordiamo la dichiarazione, insomma, che diciamo sempre abbiamo imparato dagli errori passati, fondamentalmente. Cosa risponde questo Michael Denny? Dice: c'è ancora tempo, abbiamo ancora tante informazioni da dare su PlayStation 4. La fase iniziale d'annuncio in cui ci troviamo serve solo a spiegare la nostra visione a tutti. Abbiamo una visione concentrata sui giocatori, vogliamo questo termine sia quanto più ampio possibile. Il fatto che dica che ci sono ancora tante informazioni da dare, e a noi invece sembra che l'abbiamo quasi, ce l'abbiamo già questa console, già sappiamo cosa fa e cosa non fa senza averla mai vista, tra l'altro, ecco perché è un fantasma, mi lascia pensare, insomma, che uno spiraglio per il futuro, potrebbe ancora, insomma, aprirsi e sorprenderci da questo punto di vista. Quindi ok tutte le funzionalità eccetera, ma aspettiamoci di trovarci qualcosa che non abbiamo previsto. Quindi questo lo metto di conto, è un bel augurio con cui terminare effettivamente. Sì, sì. E qua ci butto anche il nome. Qua dice, abbiamo parlato della scelta del nome a quello del design definitivo. Per 5 anni, sempre. Per 5 anni, sì. Può darsi che non si chiamerà PlayStation 4. Cioè, io la butto lì, che ne sai, veramente se sti giapponesi... Il 4, che allora il suono in giapponese richiama la morte. Ah sì sì, che hanno un problema, sì è vero, sapevo pure io una cosa del genere. In fondo, quando hanno presentato Nintendo Wii, Nintendo Wii, prima che si chiamasse Nintendo Wii, si chiamava, se non sbaglio, Revolution, giusto? Sì, sì, sì. E l'hanno mai presentato come Nintendo Revolution? Cioè ne hanno parlato come Nintendo Revolution loro, nelle fiere, eccetera? Io immagino di sì. Nelle prime, nelle primissime, sì sì. Come facciamo a sapere, infatti, avere questo nome? Poi sì, però hanno svelato Nintendo Wii U. Che ne sa se potrebbe succedere anche con questo? Non si chiamerà 4? Comunque, questo è quello che volevo aggiungere. Non sarebbe una cattiva cosa, anche se modificassero un po' questa cosa che fa molto Nintendo, Super Nintendo, sembrava... Super Nintendo, Mega Nintendo. Oh, poi scusate, devono ancora ammortizzare sulle spese del logo, scusa, del font di Spider-Man, esatto. No? Sì, tra l'altro Xbox, secondo me non si chiamerà Xbox. Che poi detto fra noi, mo, quello che pare, ma cioè il nome più brutto che potessero dare una console. Tra l'altro è pure fastidioso, c'è cioè Xbox, capito? Cioè, non so per gli americani, però insomma. Sì, c'è un motivo per cui si chiamava Xbox. Perché non so se era Bill Gates oppure qualcuno, ragazzi, mi sto sbagliando. Comunque hanno detto deve essere la scatola. Una scatola che si apre, eccetera, che contiene certe cose. No, l'ho letto, non mi ricordo. Comunque c'è un motivo per cui si chiama Xbox. È nato da c'è un motivo percorso, in teoria era perché aveva a che fare con le DirectX, se non sbaglio. La scatola che usava è DirectX, quindi da qua la Xbox, ok. Sì. L'Xbox fa finire che non si chiamerà, non dovrebbe chiamarsi Xbox tipo 4, Next, una cosa così. Basta che non sia il famoso Next. Durango, che è un nome incredibile, che sembra mamma mia, il nome di qualche sì, tribù veramente africana, credo. Ma Muzumba. Io mi aspetto un nome no, io mi aspetto un nome invece, non so perché, ma tipo New Age, cioè tipo molto spaziale, aperto, arioso. Non lo so, se tipo Xbox Infinity, non lo so, qualcosa di simile. Xbox Bigios. Se danno il nome della mia famiglia a una console, io... la Bigio Box. Però ho detto in stampate Bigio Box. Sì, Bigio. Anche la detta la B-Box, diciamo. Sì. Esatto, fa tutte quelle cose che desidero io, tipo appunto la gente che esce dallo schermo e mi combatte a fianco, tutte quelle cose che mi fastidisco, che mi combatte addosso. Sì, preciso quando dice. Non ricordo. Allora, ragazzi, io sono l'ultimo che scusate, sono il primo adesso che vi dà la sua visualizzazione futura di quando aprirò quando immagino PlayStation, e poi la lascio a voi. Okay. Allora, io non immagino, ho possiedo tutte le console, faccio questa premessa, attualmente sul mercato, e quindi non è che sono fanboy e non mi butto su una parte o dall'altra, invece il videogioco e basta. Però sicuramente se devo immaginare quando aprirò la PlayStation 4 e la collegherò eccetera, non immagino la PlayStation 4 ma immagino la Xbox. Quindi andiamo bene. Cioè, allora qui veramente tu hai voluto mettere il dito nella piaga nel mio intristimento totale, ok? Cioè, hai voluto proprio, vabbè, ti ringrazio. Mi immagino qualcosa di bianco, etereo, più Apple che Sony. Sì, qualcosa molto più light da quel punto di vista, e non una cosa nera con quel joypad, con quella barra di sensore e quei colori. Non ce la faccio. Le immagino proprio. E comunque PS2 tutta la vita. Bei tempi. No, Giuseppe, invece tu come ti immagini il tuo unboxing? Io purtroppo La vedo più nera. Addirittura, pure, cioè, sì. Cioè Luigi vede un'altra console. No, nel senso che proprio la vedo nera. Invece mi aspetto uno scatolotto, magari più piccolo, sempre delle dimensioni all'incirca di un hard disk, di un decoder, qualcosa del genere, di colore nero, perché ovviamente si deve anche abbinare al colore del controller, no? Da collegare, insomma, e l'emozione sarà la stessa di avere comprato. Io ci vedo anche un bel LED blu scenografico. Peppe dici bene di aver comprato un nuovo computer. Sì, esatto. Quindi non so quanto sarei felice di comprare un nuovo computer. Esatto, no, infatti non lo sarò per niente. Sappiate che insomma le prossime puntate di Dietrologia Videoludica verranno registrate direttamente su PlayStation 4 tramite Skype. Sì, esatto. No, beh, Skype adesso ce l'ha Microsoft, quindi useremo qualcosa. Appunto. Sì, però è pure sulla PS Vita, no? Ormai, è vero. Sì, c'è anche su PS Vita. Dai, Microsoft, cioè, c'ha Skype. Skype non è un servizio che può mettere in esclusiva solo per la roba sua, sarebbe il suicidio. Anche perché è un servizio VoIP a livello planetario, insomma. Dirà che da quando ce l'ha Microsoft è una merda, e questo non è un caso, chiaramente. Purtroppo. Poi dopo che loro diventano come i carabinieri, cioè, se uno ci fa le barzellette, ma non te devi domandare perché, capito? Con tutto il rispetto per i carabinieri che noi stimiamo e apprezziamo, insomma. Vabbè. E che ci ascoltano. E Stefano, tu invece? Lui apre la scatola e si aspetta e si ritrova il drink. Sì, esatto. Dico, sì, finalmente l'hanno fatto. Mi hanno inculato. Lui è un orfano del drink. Sei triste sta cosa. Io sì, purtroppo sono non tanto del Dreamcast quanto un orfano della Sega. Non la dico col nome, con la dicitura originale, perché darebbe adito delle battute troppo. Però se tu sei una questione, cioè, sei orfano della Sega, cioè. Non ci sarebbe neanche gusto a dirlo. In generale sì, quindi potrei non lo so. Io mi auguro, non so davvero cosa pensare. Ma non stiamo parlando di quello che ti auguri, ti stiamo dicendo immagino the people. Immagina. Questo com'è lo spot che è Fast Web? Sì, è Fast Web, mi pare. Immagina, puoi. Oppure altrimenti, se come avevi detto prima, ti ritrovi Uia al posto, apri la scatola e trovi, esatto, Uia. No? Finisco con gli emulatori nel cellulare, non se ne parla tu più. Tu pensa che apri la scatola, una scatola bellissima nera, dove sopra c'è soltanto il logo PS4, no? Scritto con i font di PS4, tu apri dentro, la prima cosa che vedi è Steam. Vedi una cosa tipo Steam e dopo vedi, insomma, vabbè, tristezza. No, allora, io immagino di fare come mio solito, ovvero prendere la console e poi non giocarci. In primo, non è che la prima cosa faccio è giocarci, ovviamente, perché non si ha mai. La prima cosa da fare è configurarla per tipo 2 giorni e poi tipo lasciarla altri 2 giorni un po' a decantare. E poi iniziare a giocare. Come il vino. Sì, come il vino. Cioè io la lascio accesa così. No, non è che la lascio accesa. Cioè, prima cerco di fare tutto il possibile per averla, tra virgolette, renderla più mia, con tutte quelle cazzatine che magari mi interessano. Io alla fine poi tendo a fare il contrario. Sono quelli che magari si prendono il PC nuovo, ci mettono il tema più incredibile, il cellulare col tema incredibile. Io tolgo tutto. Quindi penso che passerò il tempo a disabilitare le cose, gli effetti grave, qualunque cosa. E poi inizierò a giocarci, a prendere confidenza, a scaricare patch fondamentalmente. Però anche quello fa paura. Però guarda, sei già nell'ottica dell'utente smanettone. No? Perché quello lo faccio, ce l'ho da sempre, esatto. Diciamo, quella deformazione di metterci in mano e poi di usarlo senza motivo, perché sarebbe molto più semplice, prendo, la apro e ci gioco. Però non lo so, mi dà come si faceva una volta. Però mi dà più gusto così, sinceramente. Non lo so, e spero che sia un po' più, cioè che siano dei sistemi un po' più aperti, che sia un sistema un po' più aperto e più modificabile alle mie esigenze e meno alle loro volontà. Ecco, mettiamola così. Detto ciò, quindi Simone? Pizzi? No, io l'ho già detto prima. Ah, sono stato il primo a dirlo, quindi okay. Ok, bene. Io direi possiamo concludere e andare a leggere la posta. Sì, benissimo. Perfetto. Allora, questa è stata un'ennesima puntata abbastanza intensa, però penso che siamo a un tempo di registrazione decente, non so, Stefano. 2 ore e 20, sì, 2 ore e 20. Sì, ma alla fine, comunque, il fatto di essere di meno è andata abbastanza bene. Allora, prima di salutare e di dare tutti quanti i riferimenti, salutiamo, ringraziamo soprattutto tutte le persone che hanno commentato sul sito di Dietrologia Videoludica, che ricordiamo www.dietrologiavideoludica.it, le puntate precedenti. Era un po' di tempo che non riscuotevamo tutto questo successo, ma insomma gli ultimi 2 episodi, la 08 e la 09 in particolare, sono stati particolarmente apprezzati, ovviamente a parte Cesare, insomma, che abbiamo citato anche nell'episodio, sì, all'inizio dell'episodio, perché ovviamente è entrato a far parte del nostro team. Stefano, insomma, ci sono altri commenti, invece di ovviamente leggere i commenti, che spero vi andrete a leggere sul sito, ma sono troppo lunghi, insomma, per poterli leggere in trasmissione, li vogliamo citare, insomma, chi ha commentato. Sì, salutiamo Cesare, lo recitiamo, Gimli94, Little Axus, che ci aveva scritto durante la scorsa diretta chiedendoci di citare Mass Effect, ecco, e qui mi fermo. Il mitico Marco Paglia. Marco Paglia, grande Marco Paglia, che era da un po' che non sentivamo. Marco Tonoli o Tonoli, non so. Tonoli, penso, insomma. Va bene. Morgan, che non ha bisogno di presentazioni. E il Finnico, che appunto. Che lo diciamo, che è Andrea Milana. Su. Ah, è Andrea Milana il Finnico. Ok, io leggerei invece il commento di Federico della Zonca, che su Facebook, perché la pagina Facebook, insomma, dato che il commento è un po' più breve, magari gli diamo un po' d'attenzione, anche perché così invogliamo ancora la gente a fare mi piace sulla pagina, perché rispetto al Twitter e rispetto a tutto il resto la pagina Facebook è rimasta un po' indietro. Sì, vai, sì, sì. Allora, dice che Federico ha scaricato per caso il nostro podcast. Per caso, poi se l'è domandato dopo. Sì, esatto. E dice che lui si immaginava che fosse terribile, quindi più o meno aveva immaginato bene. Ma perché pensava che fossimo degli outsider stile Armata Brancoleone. Dice che sono stati dei momenti alti, l'ospite speciale Marrone, che è un bijou, è su tutti, anche in senso fisico, penso, quindi nel senso, comunque niente, questa la lascio. Noi ci nutriamo della luce che rifulge Marrone, illumino immensa, sì. E infatti talmente mi nutrite che io vivo nel buio perché mi hanno staccato la corrente. Sì, vi nutrite della mia luce proprio, pago io. Anzi, è il sovraccarico, no. Quello, certo, è chiaro. E poi tra l'altro ho visto, ritornando, scusa, sì, interrompo perché veramente ho dei flash come gli allucinati, nella puntata 108 Marco Tonoli, tra l'altro, è un fan di Peppe, perché esordisce, sì, con buon salve a perché tutti, perché mi cita, esatto. Quindi insomma sta carina pure questa cosa, sì. Vai, Stefano, poi scusa. Quindi coadiuvato dalla nostra coesione, dice, da voi che funzionavate benissimo, è una forma non costruita ma spontanea, che ci fa i complimenti e continuerà a seguirci assiduamente. Noi chiaramente, e questo, lo ringraziamo, questo ci fa piacere, e ci fa invece piacere. Su Google Plus c'è Marco, sempre William Shatner, c'è Marco, per dirlo ci provo io, dice I'm a motherfucker. Allora, poi i nuovi iscritti sul canale YouTube, dobbiamo dire che i nuovi iscritti, perché poi ricordate che abbiamo un canale YouTube dove abbiamo caricato per ora poca roba, soprattutto una sorta di intro di quando stavamo per registrare la puntata, ma piano piano lo utilizzeremo perché ci abbiamo delle idee, quindi Mister Rino Zucca, questo, insomma, Rino Zucca, Ronizuca, che lo conosco, lo conosci? Sì, Rotislav Kowalski, sì, storico, che è vero nome, sì, esatto, che scrive con me su, sì, perché è di origine su multiplayer, russa, sì, sì, per i libri. Unicourad invece, insomma, poi Jesse Napoli, che chiaramente è il nostro amico, sì, Rosati, insomma, esatto, che del network Jesse in Tech, Paxo 78, David, David De Biasi, Federico, oddio, scusate che mi sei, Federico Manelli Mameli. E... Mameli, Mameli, Mameli. Oh, è sardo, Mameli, il cognome è sardo, Mameli. Esatto. Vabbè, è un po' di rispetto. Federico, Federico Mameli, poi tra... ma Federico Mameli. Mameli. Vabbè. Mameli. Vabbè, ok, Mameli. Federico Mameli. Ma come si chiama Mameli? Di nome? Boh. Quello dell'inno di sì, Mameli. Ok, no. Cavolo, non mi viene in mente. Luigi, tu che sei istrutto. Sì. Il nome di, come di si Mameli. Chiama? Goffredo Mameli. Goffredo Mameli, ok, quindi non è uno scherzo. È quello che, soffriva il gelo, diceva sempre Goffredo, Goffredo. Goffredo. No, questa era bruttissima. So, e salutiamo sì. anche che freddura, che freddura. E salutiamo anche Klaus Clay, Klaus, sì, dai, Klaus Case. Oh, Klaus Case. Niente, io sì, oramai sì, forse Klaus Case è più giusto. No, io voglio salutare il nuovo seguace su Twitter, Simone Pizzi. Sì, esatto, Simone Pizzi, finalmente Justin Rosati. Ah, questo qua è il vostro amico, quello dicevate prima, Ratislav Kowalski. Kowalski. Ok. Come quello dei pinguini di Madagascar. Marco Pierfederici e Marco Slaverio. Okay. Questi sono sì, che... sì, niente, io stasera mi sto prendendo. Dobbiamo fare l'insegnante di sostegno per Simone Pizzi. Esatto. E la sua piccola il povero dislessia. Bambino dislessico. il giovane Simone Pizzi. E poi c'è anche questo qua, Simone Pizzi, mi pare che sì, Simone Pizzi, era ora, qualcuno ha scritto era ora accanto alla Sky. Va bene. Chi è? Si è svegliato? No, qualcuno so, la sveglia. Ah, sì, no, è Google Plus che mi chiede se è ancora lì. Ok, sì. Allora, interessante sta cosa. Pure Google Plus dice di darti una mossa che si è fatto una certa. No? Allora, sì. Ragazzi, buonanotte Luigi. Sì. Buonanotte a tutti quanti e vi auguro uno splendido proseguimento e a Simone ovviamente anche un buon lavoro con il montaggio della puntata. Ragazzi, soprattutto quando faccio il dislessico. Giuseppe, io vi ringrazio come sempre per avermi chiamato a partecipare alla puntata. Ma tu oramai sei sì. che bruscamente mi dispiace dirtelo, sì. sarà un'infamia che ti porterai tutto il resto della vita, ma tu oramai sei parte Tranquillo. Integrante del team, quindi cioè, non è che ovviamente vabbè, ritorno col mio meme iniziale della puntata di oggi, giocatevi Bioshock Infinite. Perfetto. Stefano? Io sì, sono Stefano, non è che il nome, sì, sono sempre Stefano, cioè, 2 anni che facciamo quello podcast assieme e continuo a ricordarti il nome. Comunque, no, vabbè, ma diciamolo, sono le 6 del mattino. Ma comunque, no, io ringrazio tutti voi per la partecipazione e chi ci ascolterà. Ringrazio anche i miei vicini che hanno passato la vicini o persone che vivono in questo palazzo, non lo so, che hanno passato la serata a fumare l'infumabile. Io ho passato il tempo a odorare praticamente. Cioè, perché quello che fuma il tuo vicino di casa entra dentro casa tua. Sì, ho le finestre aperte. Sembra impossibile da dire a Zurigo, ma in casa c'è un caldo allucinante. No, infatti è stata una bella giornata. Con le finestre oggi, ma dice che in tutta Europa è stato esatto. Le finestre aperte ed entrava questo odore abbastanza riconoscibile. Niente, è stato piacevole, diciamo. Non è tanto il fumo, ma solo l'aroma. Quindi. Invece ricordatevi che io ho smesso di fumare da ben 7 mesi. Se, Stefano, pensa un po' se i vicini ci avevano fuori la coltivazione di piantine di marijuana. E lui si attaccava le foglie alla finestra. Subito, non è vero, no, polizia, vabbè. Lui è una brava ragazza. È una brava ragazza, sì. È una brava ragazza. Tutta a casa è chiesa. Va bene, signore e signori, www.dietrologiavideoludica.it, Dietrologia Videoludica su Facebook e Google Plus, ci siamo scordati di dirlo. Cercate Dietrologia Videoludica anche su YouTube, ci sono delle cosine carine. Ovviamente Dietrologia Videoludo è invece il nostro Twitter. dietrologiavideoludica@gmail.com è invece la nostra mail che non avete mai utilizzato ed è vergine come torniamo lì a cosa che non possiamo esatto, dire come il naso vi rimando al prossimo episodio che sarà fra breve, quindi non sarà fra un mese perché probabilmente Dietrologia Videoludica accelera un pochino quando i videogiochi ruppero le scatole. È il titolo del prossimo episodio e non vi diciamo di che cosa parla, indovinatelo, chi indovina vincerà un buon salve a tutti registrato in MP3. Ciao. Ok, Dai, abbiamo pure un pezzetto per il fuori. Mi è piaciuto, sì, Pizzi che scaracchia. È l'una meno 20. Dai, mi sbrigo. Ok. Sì.